Quelle macchine non mi piacciono più, le giovani adesso. Eh beh, mi pare una cosa più che normale, no? Allora, poi ci vivo in mezzo alle donne, non è che non ci faccio caso. Minchia, allora lì siete proprio tutte donne, sono? Sì, c'è qualche maschio, c'è la macellai, le ci vendono, quattro magazzini insieme a me. E le abbiamo tutte donne. E vabbè, le ci vendono lì a tenersi un bacio gioio. La conosce, mi ha detto, perché c'è del cane, così non ci vedi, io ho detto, ci sono le cose che non c'è bisogno degli occhiali, ma il coso dove era vicino è normale che ci vogliono gli occhiali, ma ci sono delle cose che possono fare anche senza vedere. Beh, una cosa normale, diciamo. Raga, vabbè, comunque, ce ne sono, beh, un bel ricommesso, chi più ne ha più ne metta, non sempre nuove, niente. Ma collegando l'accordo, hanno finito tutto quanto una stagione e cose. Adesso ce ne sono molte nuove, qualcuna di quelle vecchie, di quelle più anziane. Ma andiamo lì per lavorare, non per altro, non c'è problema. Si lavora, finché c'è. nella Puglia. Ciao Domenico, buonasera. Sì, sì, non c'è problema, arriva 5859. Dove ti trovi tu, Domenico? Qua al Parco Lombano, dai, in direzione sempre città di Olbia, sempre direzione lì. No, qua in M, in FM non mi hai sentito, grazie. Sì, sì, che ti sento magnificamente bene, però pensavo che c'era qualche altra chiamata, allora mi sono spostato in AM, capito? Anche perché stavo facendo delle regolazioni, fortunatamente io avevo scatole piene di stare apri e chiudi questo 440, che era talmente virginello che me lo sono portato turbo, capito? Va bene, va bene. Marco, la mia modulazione è questa su questa radio. Ti piace più questa, quella del 430? Pensavo fosse un altro apparato, non Kenwood. Addirittura. Ce l'ho basso e non è molto alto, perché altrimenti sfascio le orecchie, quindi lo tengo così basso, dai. Però non è male, va bene così. Anche abbasso, ma anche basso, è fortissima, e aumentare va in saturazione, così va bene. No, è bella, è squillante, ovviamente non è la tua timbrica di voce normale, non è come quando ci si incontra e ci si parla di persona, è molto amplificata, ma molto molto amplificata. Da combattimento come piace normalmente a te, ecco, non ci sono storie. Ehi, ma c'ho la potenza alta, sono a 50 watt, ti si piattare i segni. Guarda, la abbassiamo e dovrebbe essere ancora più chiara sicuramente. La mettiamo a 10 watt. Tanto Domenico mi ascolta, anche perché questa c'ha le picchi di modulazione allucinanti, quindi non ci sono problemi. La radio mi piace mai questa, Marco, io non mi staccherò mai da questa radio così da combattimento, capito? Aspetta, sono in cuffia, stavo fischiando, ecco qua. Non mi staccherò mai da queste modulazioni, perché non ci riesco. Che sia questa, 140, 430, quello che sia, le radio mie Kenwood sono tutte a competizione. Mi ha sentito Fabrizio in 40 metri, abbiamo fatto le prove con GUP, lui col 1000, io col 950. Ah, tra l'altro ti devo dire una cosa, che all'FT 950 ho messo la scheda dell'FT 1000 da 200 watt, e quindi stavamo facendo una prova perché se l'ha comprato anche Carlo il 950, cioè il 1000. Carlo, sai chi è quello di Chiaramonti? Parlando, ho detto, io ho 950, però mi piacerebbe avere i 200 watt che c'è al 1000, ma detto, guarda che la scheda è uguale, la ordini e si cambia immediatamente, perché è una fesseria. Una stronzata, perché poi la ordini, non l'ho ordinata, mi ha telefonato, mi ha detto, anche bella cosa, se c'era, alla Grege. Sono passato a Chiaramonti e me la sono fatto là, e lui c'ha un quaderno dove mi ha segnato anche lui, capito? E poi, come facevamo un tempo nei negozi di genere alimentare, a fine mese paghiamo. Carlo si ingegna sempre in questi lavoretti. Non sapevo che ci fosse compatibilità fra i due apparati, e comunque è una bella cosa, interessante, no? Anche perché quella macchina è una bella macchina, ti ricordi, io te lo dissi sin da subito, l'avevamo utilizzata per la DX Expedition all'isola d'Ischia 3-4 anni fa, mi pare, o 5 anni fa, era appena uscita, ce l'avevano data. Chi è che era che ci aveva sponsorizzato, adesso non mi ricordo, non era IRA, era un altro, forse Negrini era, comunque era arrivato e ce l'aveva data per sponsorizzare quello di Torino, come si chiama? ci compra anche Walter, io lo conosco da tanti anni. Come si chiama quello? Te lo ricordi? Adesso l'hai strappato, classe, forse ti sei avvicinato troppo al microfono. No, ero di traverso, ho detto dai, non si chiama così. Sì, ecco, noi veniva, Giorgio, c'ha la latta Giorgio, e l'abbiamo usata, e io ci ho lavorato per parecchi giorni, notte e giorno, sempre accesa, ma ho avuto modo di testarla prima, mi è piaciuta particolarmente, una bella radio, con un prezzo eccezionale tra l'altro, per le prestazioni che ha e per la qualità anche dell'ascolto, dei filtri e della modulazione, veramente un po' come era il 920, più, forse ancora meglio di come era allora, quando per un prezzo così basso ti davano un macchinone, insomma, a prezzo popolare, e così è, trovo che sia sicuramente un prezzo eccezionale per quelle prestazioni di macchina. E beh, poi questa cosa di poter cambiare la parte del finale diventa veramente interessante. Ma e che cosa costa a titolo di curiosità un affare del genere? 900 euro. Solo? Così poco? Sì, ma l'ha fatta male per 200 euro. Accidenti, non è neanche particolarmente esosa. E l'hai provato in SSB da pilota 200 watt? Ah, grande, mi siede, se va oltre 150 mi siede l'PS50. Infatti stavo parlando con Massimiliano e mi ha consigliato di prendere il suo alimentatore, che in pratica è uguale a quello dell'FT1000, capito? Quando c'è disponibilità, manco prima devo sistemare quelle cose. Poi appena c'è disponibilità prenderò l'alimentatore e basta, perché l'intenzione era ricambiare, inversare questo e prendere l'FT1000. Ho già visto sui continenti, proprio da Giorgio, ma lasciava 1850. Però poi parlando appunto sempre con Carlo, ma detto, ma chi può far fare? Allora le macchine sono lì, non è che non le puoi mettere 920 vicino a 950, 950 se tu le metti vicino si assomiglia molto, perché ti miglia anche esteticamente, è molto bello, la stessa misurazione, le stesse cose, e quindi c'è un controsenso. Parlando mi ha tirato fuori questa cosa, ho detto ma vai, no, ah, ce la stai scherzando, se l'ho fatto io, e così abbiamo fatto. Ma portato di passaggio a Lotto, andando a Mattis al Corriere, io c'ho Mattis e Maiello, sono passato a Luna e me lo sono ritirato. È fatto bene, buonasera a tutti. Sì, ciao già, buonasera. No, è una gran bella cosa. Sì, io non l'ho visto, non mi ricordo, cioè no, visto l'ho visto, però dentro non mi ricordo com'è organizzato. Magari stanotte, se mi metto in radio, vado un po' a frugare nel service a vedere un po' com'è. Praticamente insomma c'è la possibilità di sfilare via la parte con i transistor e mettere l'altra. Non è grande, non so cosa ci sia da fare, poi c'è la riconfigurazione da fare, ma l'avrei fatta senza toccare il set che hai fatto tu, solo la riconfigurazione evidentemente della parte dei watt, cioè ho già ben rientrato. È una fesseria. Tu immaginate quando la presiamo, tanti soldati in fila, no? Tutte le schede in fila, uno vicino all'altro. Poi sono tutte numerate con tutte le sue sigle. Una volta tu che c'hai il manual service, va a lavorarlo, eccola qua. Spiri quella e ci metti quella a 200 watt. Una fesseria. Però chiaramente, fesseria per fesseria, io non aiuto più a nulla perché non è una cosa fattibile per me, anche perché mi viene a tremare a lavorare sulle schede, sui trimmer, mi piace. Ci ho messo 5 minuti con Fabrizio, ho aperto il coprico 440, ho detto dammi la sigla dell'FM, VR3, sono andato al VR3 e mi sono allineato il segnale di ricezione perché battevano tutti a fondo scala. Evidentemente chi ce l'aveva toccato sicuramente, non lo so, oppure è nato così, me lo sono portato. rischi a fondo, e quindi, però ho visto quanto ho abbassato, posso attenuare, quindi portati al segnale minimo, perciò va bene, è tutto a posto. Avanti Gianni, per i saluti a Marco. Ciao Marco, ciao Claudio, sono già arrivato, c'ho tutti i tre casi da portare a loro, sai? Sì, si raffredda. Ci sentiamo dopo casomai, ma continuo con il SEO, dai, vi vedo tutti quanti presi, continuate con il vostro SEO, ciao, vi stavo ascoltando già da un po'. Figurati già, presi, così si chiacchiera, buona cena allora, io sono ancora in giro invece, la cena fra un po', forse un'oretta, un'oretta e mezza. Va bene, no, adesso ero curioso, ho preso l'iPad e stavo guardando se trovavo qualcosa. Vabbè, no, io sinceramente non pensavo si potesse fare, anche una civiltà, poi stavamo parlando e facendo, ho voluto sapere tutto, glielo ho detto, è una cosa fattibilissima, non è un grande problema, capite? Tutto ok. Comunque rimane il fatto che se per il momento il 50% c'è già, anche di più, se mi si accumula l'altro 50 a dicembre faccio un salto in fiera, Marco. Sfrutto quell'occasione che mi hai detto tu, metto dentro il trolley tutte le radio Kenwood, me ne tengo una sola e aggiungo qualcosa e mi prendo una macchina di ultima generazione, anche se non molto grande, perché oramai ho l'FT950, ma qualcosa che trovo di più consistente. Ecco, troppi Kenwood mi stanno già iniziando a seccare, ne tengo uno solo per fare attività in 27 o in 10 metri, che poi non c'è bisogno, perché con 9,50 c'è una voce strepitosamente bella. Beh, lì è solamente una questione di mettersi l'impegno e fare prove, finché non si riesce a trovare la soluzione ottimale, il microfono ottimale, avere anche fortuna di beccare un microfono giusto. Quella della fiera di dicembre è una bella cosa, in che periodo è? Lo sai già? Perché non mi dispiacerebbe farci una capattina e magari ci facciamo qualche risata anche, se non ci trovano buttati da qualche parte. Non abbiamo fatto una volta, mamma mia, quello non me lo scorderò mai, per quanto tempo ne abbiamo allertato Milano tra elicotteri e ballerati e Clandone che continuava a emanare rumori strani all'interno dell'aeroporto, le reggiate del giorno, se mi ricordo mi sembra la prima vez, no, con la fiera di Genova, se ti ricordi, era una bella cosa perché tra l'altro non è massacrante. Possiamo andare in macchina o andare anche a piedi, non è un problema, sì, ma... Ce l'ho io, perché siamo andati a parlare a me. Sicuramente dire da me non va bene. Hai sentito? C'ho ancora un principio luce. Sto scherzando, sì, ero con le bambine lì. E beh, loro per quel locale pazziscono, come ovviamente tutti i bambini di quell'età. Sì, no, c'è da. Potrei fra l'altro combinare bene anche per motivi, insomma, di lavoro, ma a parte che il discorso di lavoro è da un bel po' che non vado a vedere più quella fiera, è carino, insomma, ogni tanto comunque andare e soprattutto farci due risate come abbiamo fatto sempre. Se c'è qualcun altro poi di quelli del circuito che sale ancor peggio. Mamma mia, cosa abbiamo combinato lì, cisci. Per una volta per me era una gita scolastica, sono andati a una vicina di circuito, ricordi? Dove sembravano quelli di Dio, io mi perdevo, avevo una cosa allucinante. E lì mi pare che a Milano ho preso il 920 e il PS2000. Ma guarda, non è massacrante andare a Genova, davvero, perché troviamo una bella giornata e a cavallo tra il 21 e il 23 di dicembre. Ancora non è pubblicata sulla rivista, però me l'ha detto proprio Giorgio. E poi avevo parlato con Franco Montari, ma aveva detto lo stesso che anche lui andava, quindi vabbè, Franco era animatore, quindi va anche per motivi suoi personali. Giorgio mi aveva detto che era a cavallo tra il 21 e il 23, che ancora non era stata pubblicata in radio rivista, ma le nomine erano quelle già, dai, perlomeno i venditori, quelli che partecipano sanno già che la data è quella, quindi no, non ci sono problemi. Perciò un pensierino Marco, e io porterò su queste 3-4 radio, perché tra l'altro ne ho anche un'altra riparazione di 4,40 che spero sia pronta più in fretta possibile, perché farò le comparazioni con questa, quella che mi soddisfa di più tengo, e le altre le mando via tutte, 140, 180, 430 e così via. Secondo te, domanda, perché a te te la posso fare questa domanda, è preferibile tenere il 440 con il PS50 con l'esterna MC60 e 440 naturalmente completo di filtri, accordatore eccetera, ottenere il 430, la T250, PS50, MC60 e colonnina esterna? Non si discute neanche. Io avrei tenuto tutta la linea del 440, se vuoi tenerla, perché sei sempre affezionato a quell'apparato. Tra l'altro non so se c'è ancora quello là oppure meno, ma quello là era bellissimo. Tieni quello, ti tieni la T250, il PS50 e la colonnina, se vuoi tenertela. E le altre fai fuori tutto. Fai fuori tutto e se vuoi prendere un bel base, il base è solo quello, l'FT1000 Mark 5, il MOSFET, che è una pietra miliare, così come era 10 anni fa, sino a 10 anni fa il 940 o dopo il 950, sono apparati di riferimento. Ovviamente ormai la serie, il 940 è vecchio, perché comunque è una radio che ha 30 anni, al limite un 950 digitale, ma lì comunque vai sempre a spendere intorno, se è bella, intorno ai 1300, 1400, così più o meno, 1500, mentre intorno ai 1300 più o meno se è bella, o altrimenti sotto i 2000, intorno ai 1800, 1700, 1900, così più o meno, il Mark 5, il MOSFET, o la versione da 100 watt, che però io non mi sento di consigliarti. Non mi sento di consigliarti, perché comunque è sempre il solito discorso. Il MOSFET è un'altra macchina, un altro andare. Tra l'altro poi, se fai attività un giorno che devi pilotare anche dei valvolari, degli amplificatori valvolari, quello là non ce la fa a pilotarli, perché perlomeno li pilota non al 100%. Invece prendi un Mark 5 MOSFET, e hai finito, te lo metti lì e sei a posto, ci metti due filtri, 300 euro di filtri, e c'è una macchina che può competere contro chiunque, e soprattutto con una modulazione, come sai, come quando io entro nel radio con quella, non ci sono storie di nessun tipo. Shushu cerca sempre, accende tutti quanti i suoi ciarabattoloni, i cassoni da migliaia di euro, ma non c'è niente da fare. Insomma, quando mi trovo con un doppio, perché ho già con l'FT950 euro 200 watt, ho una modulazione settata che ti stavo dicendo prima, mi sono indicato, mi ha fatto i complimenti Torino, e guarda che non è a tutti che vi fa i complimenti, perché io non ci parlo lo sentivo, c'era anche lui, e mi ha detto ammazza di Ugo, ma che parla lui, mi ha detto già, ma che sta usando? E gli ho detto, ma tu mi sto usando l'FT950 con il DM, come si chiama, l'MD100, e ho fatto proprio il tuo nome, perché l'ho detto che è stato settato dopo lunghe penose malattie, perché io sinceramente proprio ho detto non è capito la gente, me l'ha settato eccetera eccetera, ecco il telefono, e perciò mi ha fatto i complimenti lui, capito, proprio come modulati alla scala sfondo a tre. Un carico leggermente sì sì, oggi sto per terra, ma non ti preoccupare, il colonnettatore è un caterpillar. Antonello, buonasera, ti rimetto il microfono, andrei per Marco Scorpion, ok? Buonasera Scorpion, ben sentito, sto parlando Baracuda da Russi. E ciao Antonello, ciao anche all'altro amico, buonasera e ben sentito. E insomma, cosa ti ha detto Tonino? Che la modulazione andava bene qua. Tu lo sai qualcosa Tonino? Ma lo puoi voi. Quando c'è il maestro, Luca, maestro, complimenti veramente Claudio, perché hai una voce strepitosa, non so se la tua modulazione, ma mi ha detto l'M100. E sai, lui è abituato al preso con te e sui microfoni. Mi ha detto, non è un gran che te lo fai complimenti, vuol dire che me lo compro anch'io, mi ha detto un M100. No, mi ha detto, comprati un 950, poi telefoni a Marco e te lo fai settare da lui, perché me l'ha settato lui, ma te l'ha tirato. E figurati, sicuramente lui stava usando il 7008 e poi c'ha... Come sempre anche lui ne ha una sfilza di sistemi di processore di in cascata. Ultimamente adesso da un pochino che non ci sentiamo, che non facciamo prove, ma stava usando prodotti esoterici americani da paura. Preamplificatori microfonici da 4.000 euro, cioè non micio micio bao bao, preamplificatori, cioè non so, tu le mi dici, lui mi ha detto stava usando il Neumann, quello valvolare, costa 3.600 euro, e come preamplificatori o Rane oppure Focusrite, sempre cose pesanti. Cose pesanti, però ha sempre una... è un pasticcione, perché comunque fa tanti di quei casini alle volte, però è lui che ha già comunque una base di modulazione strepitosa, debile, quando entra in radio in 20 metri, gli americani ho già mai debile, il diavolo che... Non posso immaginare. Una bravissima persona, io non ci avevo mai parlato, ho avuto così ma 5 minuti proprio, giusto perché sono entrato a salutare Tiziano che mi sembra che era 7130 e quindi mi ha detto questa cosa qua, niente di particolare, per dirti che insomma quella radio è favolosa. Ok Sandro, a te il microfono, ascolti Marco Scorpion da Sassari. Sandro, ogni tanto cade a testa a terra. Ok. Quindi praticamente nel contesto di tutto ciò che stavamo dicendo, Marco, mi sentirei poi ingolfato di due radio simili, capito? Continuiamo sempre a fare lo stesso errore. A quel punto lì, per prendere il Marti 5, sacrifichi il 950. Capito? Sacrifichi il 950, ma per me non vale la pena, perché è una macchina che io uso molto poco, sai dove la uso, non sono un grande appassionato, però quando faccio e tiro le somme così velocemente, e con quello io vado benissimo. L'unica spesa che posso fare è un alimentatore da 50 ampere, solo soletto per lui, e lo faccio volare così come sta volando adesso alla grande, capito? E preferirei magari prendere non so, una radio, una macchina che non è della Yaesu, ma non so, che sia della Icom, qualcosa del genere. Ad esempio Carlo mi ha consigliato moltissimo il Pro 3, che è ancora in prezzo ed è una grandissima macchina. Sai, poi io non ho il 3 o il 2, che credimi, c'è poca di differenza, sì, è sempre un miglioramento, hanno migliorato un po' la parte dei filtri, però la base della macchina, insomma, per buona parte è similare. Il Mark 5 è un'altra cosa però rispetto al 950, claro. E poi sai, sono quelle cose che sono quelle scelte. Quella là è un base definitivo assoluto, questa che hai, il 95 è una bella radio, però non è il top qualunque va bene, cioè per carità, ma se anche usi un 430 e vai a trasmettere in 40, in 80, in 160, in 10, dovunque vai, vai sempre bene, anche se usi un 101 ZD o un altro apparato, se le cose sono messe e regolate bene, vai benissimo, però cioè, ci sono sempre delle differenze sostanziali nell'uso, nella gestione della macchina, delle cose che può fare. Io ti consiglio di prendere un Mark 5. Il 950 è comunque una bella macchina, ma comunque si trova sempre ad un prezzo che poi è facilmente abbordabile sul mercato dell'usato, mentre il Mark 5 è veramente un top, un base top. Ecco, quando c'è quello, cioè, sei in linea con tutti gli altri, anche se magari costano 5.000 euro in più, capito? Non è la stessa cosa invece parlando del 950 confrontato a altri apparati tipo l'FTDX 5000, il 7008 e via l'Aircraft e via discorrere insomma tutti gli altri. Secondo me, tra l'altro, poi si trovano ancora in giro delle belle macchine a un prezzo tutto sommato, come abbiamo detto, dai 1.700 ai 1.800, 1.900, a un prezzo eccezionale, se pensi che una macchina costava 5.000 euro, mi pare. Adesso ti rilascio il microfono, Antonio. Allora, se è quello del discorso, facciamo come ho detto, Ciccio. No, io ce l'ho già sotto mano, Sottomano, se fosse risolto il problema in anticipo rispetto a quello che hanno dato loro come data di quel discorso che conosci tu, avrei già preso, perché Giorgio me lo lascia 1.800 euro. 1.800 euro, spedizione gratis, non c'è nessun problema. Col microfono ha detto qualsiasi tipo di microfono, lui non ci sono problemi, ti posso dare l'MD200, un altro MD100, quello che vuoi, ma a quel punto lì preferirei il 200, capito? Comunque adesso vediamo, se si rispettano le cose, le date, entro fine mese, quindi questa settimana si dovrebbe risolvere il problema. Il costo vuol dire che ci vorrà più e quindi abbiamo già calcolato tutto. A casa ho fatto tutto, il notaio ha aspettato lì davanti alla porta che io uscissi e si è messo così con la mano e ha fatto 5.500 e quindi non è avanzato praticamente nulla. Antonio, si è allontanato dei discorsi vostri di apparecchiature che loro sanno manco di cosa stiamo parlando, loro, oddio, chi sta ascoltando, sono apparecchiature al top della disperazione del portafoglio, capito? E quindi lì poi sono entrato mio cognato, ha stimato tutto là. Se era la cosa più veloce su quello che mi doveva fare, non l'ho già preso, però devo aspettare ancora, vediamo, questa settimana vediamo un po' com'è la situazione, credo, spero che si risolva. Ok, anche perché Giorgio mi dà 340 e 680, mi dà 350 euro l'uno, sono 700, 450 euro mi dà per il 440 e quindi insomma non è che lo può aggiungere molto. No, così, Antonio, vediamo se c'è, Antonio ci sei, non riprendo. E vedi, quindi si accorciano parecchio le distanze, con poche centinaia, però porti a casa un macchinone, allora metti quella, accendi quello, coppa, anche l'audio, la ricezione, è un altro viaggiare. Guarda, con quello hai, non senti più le non ci sono, cioè è chiaro che se uno si compra l'FT5000 di Ex, ma per comprarlo e portarlo a casa ce ne vogliono altre 3.700 di euro, che diventa pesante. Invece con quella macchina lì hai veramente hai fra le mani veramente una grande radio, un grande ricevitore, bellissima modulazione, sempre due regolazioni, spettacolare. E poi il finale viaggia bene, li lavora, cioè il finale veramente dei 204 te li eroga a tutti, con grande qualità, di trasmissione e di ricezione. Non c'è niente da dire, fra l'altro poi guarda, compri una cosa che è sicuro che va bene, e ti ripeto, è come anni fa si comprava un 940 o un 950, sono macchine che anzi ancora meglio, perché questi Mark 5 non hanno creato mai quei piccoli problemini degli aggiornamenti che invece hanno dato sul 940, che partiva l'attenuatore, poi questo problema anche del 950, e poi si spegneva, si fulminava lo sloop, la luce dello sloop, oppure se poi incominciavano a fare i vari potenziometri. Invece guarda, 950, è raro che senti qualcuno che ha avuto qualche problema. Se l'ha avuto è perché ha fatto qualche pasticcio o comunque se l'ha creato lui, ma altrimenti le radio sono fatte bene e sono affidabili. Sì, questo è ma su quello non c'è dubbio, ne parlavo anche con Giulio di questo. Ma sono riuscito finalmente anche a parlare con Bianconi e mi diceva anche lui la stessa cosa. È chiaro che quando hai macchine del genere, mi diceva, le prestazioni sono ormai superate da quello che era l'analogico, tipo il 940, tipo insomma altre macchine che io e tu abbiamo avuto, perché con la mia carriera da radiomatore macchine grosse ne ho avuto poche, ma con la carriera di come si dice, di pirata ne ho avuto tante, e quindi le ho provate tutte, insomma, dalla chi più ne ha più ne metta. Ne sono passate tantissime tra le mani grandi, tu prendi un 102 con lo stadio finale bravo, io c'avevo la linea completa, il 102, il ruocio separato con la cordatore, la colonnina, e allora l'MD1B8, l'MD1C8 che ho avuto, anche altre pietose in quegli anni non ce n'era, poi viaggiavano alla grande, l'820, l'830, 920, 930, c'erano tutte macchine che mi sono passate tra le mani così, tac, e quindi l'esperienza me la sono fatta. Oggi quando tu ascolti radiomatori che parlano con macchine da 7, 8.000, 10.000 euro, è spaventoso sentirlo. La mia modulazione è quella che va sempre un punto di riferimento, soprattutto in AM, ma va naturale, ma anche in FM, non ho problemi di timbrica, capito? Qualsiasi microfono io uso è sempre adeguato alla mia grande modulazione. Adesso vediamo Marco, vediamo com'è la situazione, ma il bilancio è già fatto, è già tutto scritto, parte le due piccole 140 C80 e un 440, perché ne ho altro, quindi metterò la linea completa del 430 che c'è una modulazione, una ricezione anche in modo naturale molto bella, e la linea completa del 440, e poi il resto va via tutto, e sarà quella linea che tu mi dici che manterrò, e prenderò sicuramente al 100% il Mark 5, perché era già quell'obiettivo, anche se ho 950, ma non c'è assolutamente nessun problema. Ho preso anche la Vonage, la 908 con il quadratore e tutto, l'ho provato, è strepitoso, il microfono voce tua è adatta poi a qualsiasi, è una emissione da broadcasting, perciò è adatta a qualsiasi apparato, col Mark 5 fa ville. Va bene, è arrivato Luca e ti manda a cena, dai, ci aggiorniamo, magari ci sentiamo più tardi se rimane in ascolto e continuiamo ancora a chiacchierare. Ciao, buona cena, un saluto anche agli amici in ascolto. Marco Scorpio, QRT, ciao. Ciao Claudio. Ciao Massimiliano, ciao Marco, salutami a Luca e ci aggiorniamo e ne parliamo ancora di questa cosa. Avanti Massimiliano. Oh, ciao. Sono rientrato dalla tavola a mangiare. Devo proseguire un po' di lavoro arretrato e vedere un po' di portarlo avanti. Un po' di portarlo avanti. Ciao anche a Massimiliano che ho sentito, ciao, sto scendendo, ciao. Ciao, chi era? Sentivo piccolo. Comunque buonasera. E niente. E tu cosa stai combinando, Cla? Piccolo sì, Tommaso Scorpio in macchina era. Ho visto un segnale di 3-4. Cioè era comprensibile, ma non mi si è sollevato più di tanto l'ago. Comunque, buonasera anche a lui, non c'è nessun problema. A te, Cla. Eia. Dimmi, Sandro. Ok. Allora, aspetta un attimino. Non ho da scaldare. E se ti dico scaldare, capisci il mio lavoro. La situazione qual è? L'ho riallineato con la nuova, diciamo, nuova tabella dei segnali a microvolt, perché se no poi dopo ti spazza in banda laterale, attenzione, perché purtroppo il 440 c'ha questo problema. Non dici così, prova a passare in banda laterale qua un attimino sul 10, un attimino. Hai USB? Allora, voglio vedere, ma non fa più, non vuoi che ne so, capito? Come è il genio avanti? Ciao, Massimiliano, come su di essa, appena, e esci saltellante, tremolante. Ok, vediamo un po', ok, vediamo, guarda, questo non li devi fare il fuoco, ma quando li fa il fuoco prende parte, come quei vecchi compressori. Adesso dovrebbe aver migliorato un po', no? Ma se parli un po' più forte, tende a fare quella specie di effetto di saltello. Ok, infatti qua me ne accorgo dallo smicchia. Adesso vediamo qua. Ok, così dovrebbe essere normale. Sì, adesso stai andando bene, cioè perlomeno non stai più saltando, picchi positivi e vai bene. Vabbè, purtroppo diciamo siamo negli anni 30, tutto lì, bravo. Vabbè, ma che mi rimetto al lavoro, sono in ascolto. Ciao, non si vede. Piovendo e blu. Perché ci dobbiamo trovare adesso, vediamo un po'. Domani ci mettiamo d'accordo come finisco il lavoro. Andiamo a prendere un'antenna da Fabrizio, da Ringo. Vediamo un po'. No, ho un appunto di uscita, mi siete trovati cattivo qua, sono uscito un po' tardi da lavoro, ho capito, non ce l'ho fatta. Dovevo uscire alle 11, cazzo, ne sono uscito cazzo, a mezzogiorno e un quarto. Perché? Perché è passata l'ora e stavamo gettando, capito, e stavamo preparando l'impasto, tutto quanto, non mi sono accorto che era mezzogiorno e qualcosa, hai capito, dalle 11 che dovevo uscire. Non ti hanno detto nulla, ma che non vorrei andarmene, non mi hanno detto niente, no, cazzo, non mi hanno detto, dice guarda che è mezzogiorno, cazzo, ho detto, mezzogiorno, un quarto, cazzo, ho detto, io fino alle 11, cazzo, 9 più li ho fatto, cazzo, dalle 8 che c'ero stamattina. E la scelta per pagare, la scelta per pagare. E gliel'ho segnata sì, 8 mezzo, 8, 12 e 15, hai capito? Un quarto d'ora si può anche dare, ma un'ora e più. Vabbè, ma già, cazzo, è cosa vuol dire? Ma adesso domani mattina lo stesso alle 8, sino alle 11, hai capito? Dove sei adesso? Sono via Pascoli qua. A casa? Casa sto andando. Ma a casa dei Civitinti? Torno a casa dei Civitinti? Scappa, beh. No, tu sei già in pigiama, se no sei venuto a trovarti. No, peggio, io sono contento. E allora, lascia perdere. Non sono stanco molto, non aggiungerà. Sono stanco, con la schiena fritta. Anche se con la fritta stasera ho lavorato, sì, ma non come gli altri giorni che ti ricordavano. Ma stamattina ci ho lavorato un po'. Che cazzo? Perché io stamattina, guarda, dalle 8 non mi sono fermato, non mi sono attaccato, anzi, alle 8 meno 10 sono arrivato al lavoro e non mi sono fermato un attimo, manco per andare a fumarmi una sigaretta. Tre ore, cazzo, tirendi avanti, tirendi, ma un bel mi. Quello poco male per la sigaretta, meno ne fumi è migliore. So già, però... E cosa vuoi? Cerco adesso dal prossimo anno, da gennaio, di eliminare tutto quanto, ho capito? Sigarette e compagnia bella. Giuseppe, non da gennaio, devi cominciare da domani. Da domani, mi interessa che da domani devi cominciare così. Così a gennaio è già il mezzo giorno da un po' di mesi, dai. Lo so, però la mandronia, cazzo, no, ho capito, allora, la mandronia è questa, lo dico, però non lo faccio mai, però questa volta è la volta buona che devo mettermi in testa di smettere a tutti i costi. Anche perché le sigarette, oltre alla salute, che è la cosa essenziale, ma... Dico, stanno aumentando le sigarette, ci portano via un bel sudo, poi se metti qui su che spero in sigarette ci avrete in tasca. Vuoi prenderti un microfono? Ti prendo un microfono, vuoi prenderti un pacchetto di cimento, qui un pacchetto di cimento, fa un bel bucciare. Invece ecco, le sigarette ti riduci la velocità della parola e ti fanno anche male. Fumate! Fumate, chi è? Come chi è? Non l'hai riconosciuto? No, non sono riconosciuto, chi sei? Vediamo bene, fa una prova, pensa un po'. Silandia, sì. Volevo chi? Silandia? Non credo, no. Sì. Tonello di Tissi. Antonello? Tonello Antonio di Tissi. Capito. Scusa se non ti riesco a riconoscere, chi sei? Vuoi ripetere? Antonio di Tissi, Tissi, T-I-S-S-I. Ah, cazzo mi da buon anima, ogni tanto cazzo ti vai vivo tu, ciao tu. Vabbè, ben entrato. ogni tanto, dai. Ogni tanto l'accendo. Cazzo, ogni tanto ti fai vivo tu, cazzo, era ora di farti sentire, cazzo, era molto che non stavi più modulando, a tu. C'è un po', sai, l'imprevisto, una cosa e l'altra. Adesso giustamente sono un po' di tempo che non modulo, che c'è modulazione? No, vi siete, come si dice, sovramodulati, come si dice, sì. Non ti ho capito, no? Che c'è in ruota? A noi, hai due minuti, ma non a me. Già l'ho capito chi è, già ne lascia perdere, già lo so, vecchie volpi non ingannano così, già lo so chi è Gianni. C'è non per male, ma è anche me. Non ho capito. Aspetta, sta uscendo un bel male, ma c'è anche me. Tu uscendo male. Vedi come si fa per farlo uscire. Sicuramente sono molto senza modulare. Devo controllare un po' l'apparecchiatura. Sì, attore, però questo microfono l'ha migliorato. No, sto usando il 78. C'è un bel ripompante. Aspetta, guarda adesso. E adesso già va meglio. Cazzo, poi Antonio dice chi c'ha, ciao Antonio, non esiste Antonio Dittici, ma ti stesso Antonio c'è a coso, a come si chiama, ai Antonio Dittici c'è, ma Dittici tu. Vabbè, no, se va a provare l'apparato a vedere, no niente, adesso bene va Gianni, aspetta E adesso va bene. Comunque c'è un sacco di disturbi strani, comunque buonasera. Buonasera anche a lì. Ma sai che mi avevano fatto abbassare il microfono l'altro giorno, non lo ricordavo. Mi avevano regolato, mi avevano abbassato il macchinino, e lì dicevano che ci può abbassare, invece era perché c'era il macchinino, ma su quell'altro dove stai, così va bene. Aggiungi, complimenti che mi ha fatto abbassare. Sì, ma anche tu non accorgertene. No, ma l'ha fatto passare una persona, ha detto che uscivo meglio così, invece tutti mi hanno detto che ero bassissimo, adesso invece vai bene, ma è anche claro che sono bene, perché prima se mi hanno trovato appena non mi sentivo più nessuno. Questo già va bene, era comprensibile anche prima la verità, quello sì, però adesso già va bene, a voglia. Tonello. Istituto Leoncini. Scusa per stamattina per l'appuntamento, non ce l'ho fatta, sono uscito a me, come stavo dicendo a Gianni, sono uscito un po' tardi da lavoro, dal posto di trabacco, e non ce l'ho fatta per quella cosa là, mi devi scusare. Ma non ti preoccupare, nel caso ti chiamo domani, no, stai tranquillo, no, non me la prendo per queste cose, per carità. Lo sapevo che stavi lavorando, giustamente ognuno c'è il suo impegno, non ti preoccupare, stai tranquillo. Però una cosa ingiusta, io dico se non si può dare un appuntamento bisogna avvisare. Non mi voglio mettere in mezzo, però mi dà fastidio per me, gli appuntamenti non vengono e non ti avvisano nemmeno. Un colpo di telefono costa. Vabbè, diciamo io non ce l'ho il telefono suo, giustamente lui non c'è il mio, per la verità. Non ci abbiamo pensato né uno né l'altro di avere l'occasione di scambiarcelo, ma non c'è problema, non c'è bisogno di. Stai lì a litigare per queste cose, dai, giustamente, infatti io gliel'ho chiesto io ieri a lui, ma mi ha detto lui che stava lavorando, poi sicuramente, giustamente al lavoro capitano degli imprevisti, dai, no, non c'è problema. Ma un po' Giuseppe, tipo, che ti dà un appuntamento, te lo rispetto, però può capitare. Quello sì, non c'è problema. Stai tranquillo Giuseppe, non ti preoccupare. Mi devi un caffè? Anche due, Antonè, anche due. Io non mi volevo guardare la macchina perché cazzo qua sta facendo un diluvio, cazzo, che non fa scendere dalla macchina, capito? Ma scusate un attimo, c'ero io su questo carrello allucinante o ce l'avete anche voi? Questo sì. Esatto, sì, c'era un bel po' alto, abbastanza, ma abbastanza fastidioso. No, io appena appena lo sento di quella verità, ma è la pioggia, Alla pioggia, e andiamo bene. Beh, perché a volte capitava che che quando pioveva era pulita la stazione, invece sicuramente più già sporca. Ma di quella del deserto, sporca anche la modulazione. Da cantubare. Ascolta, com'è questa Gianni? La modulazione com'è? No, ciò va bene. Prima non mi piaceva, ma adesso va bene. Cosa stavo dicendo? Poi sembra fatta apposta, Antonio, quando ti davi la macchina, il giorno dopo di quella pigia del deserto. Già è vero, specialmente quella rossa, che è talmente appiccicosa che guarda, si è costretto a rilavarla, perché oltretutto non vede niente quando qui devi per forza lavarti il vetro, non è una passata di pompa che la devi dare, con la spugna. Poi si infiltra tutte le parti, ti intasa i cosi dell'acqua, il tracicristallo, gli uccelli dell'acqua ti intasa tutto. Il vetro vai a passarti, cazzo, ti ringrazio. Vero, infatti bisogna sempre là. Avere, io prendo l'innaffiatuio quando capitano queste occasioni, una spugnetta, una passata veloce e pulisco tutto. Beh, io già c'ho sempre il bidone in macchina, c'è un bidone con l'acqua in macchina, però non è venuto, una volta mi è successo, Antonio, stavo solo una stessa di costruttore, davamo i buddi, cazzo tutto, tutto vedo un fumo davanti. Mi fermo, apro il cofano in fretta, cazzo mi ha fiammato. Cazzo, sono stato da fuoco il furgone, cazzo vado correndo in una campagna, stavano facendo il pomodoro, stavano lavando le bottiglie dove ho preso la pompa da mano, perché non si è servito di nulla. Sono andato correndo, ovviamente si è fermato una pista con l'istruttore, un po' l'ha spento e un po' l'ho spento io con l'acqua. Per fortuna è andata bene. Alla fine la conviene sempre, guarda, sono quei piccoli tintori, di quelli portabili, sai, in polverina, che a volte capitano queste occasioni e hai la possibilità al massimo di salvare un po' la macchina, se viene bene sono le persone. Che ogni tanto li vengono a città mercato quelli in polvere, questi sono utili averli sempre in macchina. Io ce l'ho. Lo metto appeso, però c'ho un borsone in macchina dove tengo tutta la trattatura e c'è anche quello. Anch'io ce l'avevo sparito, non so che fine abbia fatto. Che mi ricordo la cosa, se la punti da carrozzini, meccanici, la macchina, quelli, devi togliere tutto, perché te ne attacca un fantoccio secondo la punta. E quello già è vero, ma non ti preoccupare che giorno per giorno veramente ti mettono in condizione di non fidarti più di nessuno, guarda, veramente uno schifo, è che non fai in radio a raccontartelo, ma se ti racconto questa scena che ho sentito oggi, guarda, me ne sono scese le braccia, guarda, veramente le braccia, guarda, ti giuro, proprio ci sono rimasto così di merda, boh, non lo so. Una volta questa signora, questa difficoltà, la signora cosa c'è, come non faccio la mano? Ma non lo so, non metto in moto, ma non è che mi dà una spinta, mi do la spinta io, ma la metto in moto lì, non per conviare, ma sicura è che c'è benzina, guardo bene che la benzina secca. Signora, ma qua è rimasta secca benzina? Ma se io non mi sono messo a serbato, io sto iniziando al carrozziere, cazzo, guardo dietro e c'era ancora il lucino come gli avevano tirato la benzina, l'odore c'era l'odore di benzina, mi ha ritirato la benzina e poi l'ho lasciata secca. Guarda, già ci credo, non ti preoccupare, ormai credo a tutto, guarda, hai fatto un certo punto, credi a tutto, vabbè, poi quando ci vediamo in faccia te lo racconto. No, ma veramente girando male la situazione, veramente, guarda, uno schifo, veramente uno schifo. Ho messo un link oggi su Facebook. La Scotex si sta per fallire, se vuoi aiutare l'azienda, mandaci la gente a cagare. Ma ragazzi, vai tranquillo che la gente a cagare. Sai, se li mandi a cagare rimane da solo. Se non li mandi a cagare ti prendono per il culo, arrivato a un certo punto, guarda, ti mettono in condizioni, se non lo lasci stronzo lo devi diventare, guarda. Proprio per sopravvivere, devi diventare uno stronzo. Ma il carattere è carattere, Antonio. Uno che non è malefico, che non è cattivo d'animo, certe cose non le fa, nemmeno se gli fanno del male non riesce a fare del male perché più pulito della persona, c'è poco da fare, non perché sia fesso, ma perché è così. Io sono me stesso, cioè a me me l'hanno fatto di male, così, se sono riuscito a perdonare tutti quanti, anche le persone più, quelli che mi hanno fatto proprio cose brutte e cose, però sono sempre riuscito a perdonare, quindi possiamo sbagliare, la vita è una, lasciamo andare avanti le cose. E bisogna fare, poi bisogna fare tipo gioco. Sono pienamente d'accordo, però ripeto, quando nasci, diciamo, tra virgolette, una famiglia in cui ti insegnano il rispetto delle persone, no? Giustamente, e tu rispetti, già in quel momento in cui tu stai rispettando quella persona, sai già che ti prende per il culo, tu manco te ne accorgi, ne approfittano anche della buona educazione che io ho avuto, devi diventare uno stronzo, per quanto pare adesso, i tempi che corrono, e l'unico modo per andare avanti devi essere uno stronzo, schiacciare le persone con i piedi, le vedi in terra, devi lasciarle morire, perché tanto poi alla fine sì, ti fa male da una parte e poi dall'altra, dici ma chi se ne frega, a me non l'avrebbero mai fatto, ti mettono in queste condizioni, di ragionare in questo modo, dammi retta, io per esperienza che sto vivendo ogni giorno, stranamente poi in questi ultimi tempi, per carità, mi sono scendendo le braccia e sto imparando a che anche a me tocca iniziare a fottere le persone per andare avanti, per esperienza, e poi ognuno la vede in un modo diverso. Io mi comporto sempre di conseguenza con le persone, ma quelle che si comportano bene con me le do il cuore. Io sono uno che l'amicizia intende amicizia con la A maiuscola, sottolineata, però ci sono persone che cercano, credo, di prendere più il culo e cose del genere, e invece non ce la fanno, perché arrivati al punto che io me ne accorgo, poi le linee. Elimini oggi le mie domande e rimani solo, e che discorso è anche quello. Poi oggi ho sentito una cosa così, discutendo, parlando, cercavo di risolvere, e giustamente il radio non fa, perché non fa neanche il radio, perché ho imparato anche giustamente a chiudermi la bocca, credo di aver trovato delle persone giuste e così via, vabbè, si impara sempre, fatto sta. Oggi ho sentito un'altra, oggi guarda, mi sono scese le braccia, veramente le braccia, cosa che io non mi sono mai permesso di fare, sai. E ti mettono in cattiva luce, così tu sei la persona più tranquilla del mondo, non rompi le palle e poi vai a sentire cose ingiuste, poi alla fine poi dici ma porca miseria, ma devo andare avanti in questo modo, o come bisogna risolvere le cose, diventando uno stronzo. Diventando una persona cattiva, perché sono le persone stesse che devono diventare cattive per andare avanti. Ma io dico una cosa, meglio soli che male accompagnati. Metti in dubbio, però bisogna capire che ci sono anche le persone per discutere, per confrontarsi, per avere delle esperienze, per avere dei consigli. Tutti hanno bisogno di tutti, nel modo in cui lo vedo io. Tutti abbiamo bisogno di tutti, bene o male. Giustamente ognuno ha i suoi pregi, i suoi difetti, ma un giorno perché no, potrebbe capitare che tu hai bisogno di me o viceversa. Arrivato a un certo punto, allora continuando così, alla fine ognuno si deve scannare uno con l'altro, e poi perché cosa? Alla fine perché cosa? Infatti, io ho fatto due più e farò quattro. Tre persone che io ho problemi e cose del genere, ho deciso di perdonare le cose, di ricostruire una loro amicizia e cose del genere. Naturalmente con le persone che ho perdonato, se si giocano di nuovo come hanno fatto prima, si giocano l'amicizia, questa volta la perdono. È raro, ma non è perseverare essere di abuso. Che va la sciscia, avanti Leoncini. Ehi, già sono qua, ma mi ascolti meglio, no? Non ti ho capito, scusami un attimo, che? Aspetta, se mi ascolti meglio. Adesso sì. Adesso sono ancora stato nel fissa, a casa. Adesso è tutta un'altra minestra, Beh, era più basso prima, no? Un pochettino si guardi questo disturbo che c'è di sottofondo, ti copriva un po'. Già, vabbè. Riprendi tu, Gianni. E come calcolate la voce, il buco non uguale, che è la timbrica, che ti aiuta molto, perché c'è la voce grossa. Adesso ce l'ha bella, finalmente d'accordo, sai, adesso sì che sei perfetto. E cappa, vabbè, e tutti siamo abituati alla voce sua naturale, e cosa vuoi fare? Giulia, a me la voce grossa, a me non mi piace, capito? A me piace parlare normalmente con la voce che c'hai, capito? Ma tu è la timbrica più grossa della mia, tu a caso sei americato, anzi quando avete cantato il canto del microfono sembra che canto, ne sta sparando il mondo, ok? Esagerato, questo qui è normale. Non credo, no, cosa gli hai fatto? Adesso sei più forte di prima. Io? Allora, adesso c'è una cosa squillantissima a manetta. Sono qui, perché ci avevo già detto, c'era Mike Gill, che era praticamente tutto basso. E lo ha alzato tutto lì, cambio. Adesso va bene, bene. Adesso sei allucinante, scusami se te lo dico, poi giustamente sei libero delle tue decisioni. Per me adesso in questo momento, confronti a ieri, c'è un abisso, adesso sei di una limpidezza, di una potenza perfetta. A cosa te lo compro a fare un altro microfono? Perché vabbè, l'ho già ordinato, quindi è giusto che l'ho fatto ordinare a Croce, quindi è giusto che glielo fai. No, questo qui lo tengo del ricavio, questo qui è l'eco dell'apparato di Antonio, col microfono della CD normale. Guarda, è peccato che non in questo momento non ti posso registrare, se non ti sei sentito, guarda, per il mio molesto parere sei non perfetto, di più. Ma che ecco è buono adesso, vero? È una squillantezza incredibile, guarda, non posso registrare se non ti saresti ascoltato, guarda, sei perfetto. E la prerogativa di questa apparecchio qua è quella, che ha una bella radio, tra i tanti Giulio, mi giuro è uno dei più ricchi della frequenza, quindi ne avrà girati gli apparecchi. È simpatico Giulio, non l'avevo mai visto, dai, giustamente in verticale, molto simpatico e... Dai, giustamente, è vecchio, poverino, dai, non è sia così vecchio, perché sa che ha, diciamo, per come si comporta, è abbastanza giovanile, molto, molto simpatico, la verità. Dai, sono contento che mi abbia avanzato, fa un po' di piacere, almeno qualcuno, dai, ti dà un pochettino di coraggio, ma secondo me tra l'altro sei non perfetto di più, io l'avrei lasciato così il microfono, poi vedi tu. Antonio, io sono una vita che ti dico che va benissimo con quella radio e tu a me non mi devi avere. Cavolo. No, ma Giulio era una persona in gamba, vecchio, intendevo, vecchio della frequenza, non mi permetterei mai di dire che è vecchio d'età, per carità. È una persona della certa età, però non è che sia vecchio, vecchio se vuole qualcosa. E poi Giulio è ancora attivo, fa certi mobili, è molto bravo, è il nostro Geppetto. No, ma già si vede. No, non sai cosa è. Sì, da una parte giustamente devo chiedere scusa, giustamente, lui si dice. Dai, quei consigli e molti non l'ascoltano, ma non è che non ti ha ascoltato perché non ti voleva ascoltare. E non ti diceva una cosa, non ti diceva l'altra, e poi alla fine scopri che ti stavano prendendo per il culo. Anche tu lì giustamente ho sbagliato io, anche quello lì è esperienza, perché è esperienza alla fine, se non sbagli non impari mai e via, sono appunto così, non sto toccando niente, così è e così rimane. Tu devi appurare chi è la gente sincera e chi è quella che si diverte. A me mi hanno fatto smontare il microfono in strada, mi ha detto che stavo uscendo male, mi sono fermato in strada, ho preso il cacciavite dentro la cassetta degli altri che avevo in macchina, ho cominciato a smontare, a fare, e poi mi dicono che stavano preso. Lo so, che sei sempre sui distronzi. Mi di bene, ti fidare solo la gente che conosci e io a pelle mi accorgo che non ho preso le gambe. Fatti il brecco. Poi anche a me, quasi devo dire che ci male, ti dico poco fa cosa ti ho detto. Anche se stai uscendo male sei Antonello, perché ti riconosci dal tuo modo di fare, non dalla motivazione, perché era completamente diverso. Ti avevo detto che stai uscendo male, non è che ti possa sempre che tu dici bene, se stai uscendo male esci male, ti dico Antonello, non stai uscendo come assurdo. Ma giustamente non posso entrare, ho detto, ma proviamola a vedere se qualcuno riesce a chiamarmi. Tu lì niente di particolare, dai. Comunque ho tratto una manetta, avanti! Mi avvoli, avanti di un G. E K, io non lo sento quello che è entrato, se lo sentite voi, fatelo venire avanti. Mi ha detto quattro volte. Chi era? Ma sinceramente non l'ho capito, è entrato così, ha dato un colpo a manetta. Non sono capito neanche cosa ha detto, perché ti ha sovramodulato mentre stavi modulando, Gianni. Eppure non vuole più modulare, e a pregare si va in chiesa. Sovramodulato è qualcuno forte, quindi o è qualche mio vicino. Lugari è che sì. E Luca sta mangiando. Se mi ha sovramodulato è perché ero tutto tranquillo io. Cavagava. Ecco perché. Minchia, ogni modulazione. Prego. Dio. Avanti. C'ho io. E Claudio no. No, Claudio ci sarebbe sentito, Antonetti. Pove. Questi giorni vi tocchi abbastanza, un bel bacio, sai, lo sta toccando, no? Non è lui sicuramente. È lui, cazzo, eravamo sino alle 7:30 modulando assieme, dunque c'era Fabrizio Chirigato, poi c'era Antonio Crote e poi io ho chiuso alle 7 qualcosa, hai capito? Claudio, sicuramente toccando qualcosa sta uscendo male di brutto, vai tranquillo, fidati che è lui. E guarda, non entra, guarda, mi devo stare ascoltando. Comunque ti va bene come soprannome. No, che nome? Pronto? E te, alla veri, a Vanna Marchi, cazzo, eh? Chi, che vedi? Ti ricordo, non te la che mi cazzo. Oh, mira, oh, a te tocca io. Buonasera a tutti. Buonasera, zio Falchetto, buonasera. Ho detto perché come domenica non sono salito, ce l'avamo la mattina. Ah, oh, già, sono andato a pescare, ragazzi, ho fatto la notte al mazzone, Leone è uscito al mazzone, si è agito al mare, via tutti fuori. No, vedere, salisci però purtroppo ha avuto altri impegni, là. Non ci devo anche salire per portare una cosa grave. E niente, e ci vediamo domenica prossima se ne vuole. Come sarà quello che uccide? No, ho dormito, sono uscito. Punta. potente. Ma se dove devi andare? Esattamente. Scendendo da quella scalinata, visto dove c'è, a fianco dove c'è il padrone, sopra la scalinata. Scendi le scalinate e vai verso sinistra, verso la torretta. L'ultimo effetto di spiaggia che c'è, di lì si pesca un po' di roba. Oh, ho capito. Allora devi andare costa a costa. Dai, mi stai dicendo col gommone, mi sto pensando a terra io. Io pesco la terra, da lì si pesca bene. Sì, costa a costa ti conviene allora balare, la zona di balare, con quattro. No, no, no, siamo arrivati lì vicino alla torretta, poi siccome ci sono le secche lì non è che mi potevo avvicinare molto, capito? Allora era preferibile rimanere più in alto, diciamo, dove c'era più acqua. Ecco, paga, ma sì, è vero che io infatti vi ha pescato con galleggiate, se lo lasci un po' lontano oppure dovremmo galleggiare, quando lo intubi devi cercare la gamba che se no in casa. E vabbè comunque lì la zona che è buona perché lì adesso mi conviene con la tontanara, la sera con la tontanara fai un po' di luce oppure ti prendi, invece la mangiare molto bene perché ti luci la tontanara. Sì, sì, no, ma ho visto che c'era un bel di bacchette, stavano prendendo un casino di furti con la tontanara, capito? E ne hanno preso parecchi. Tu non l'avevo fatto? Da solo l'avevamo, no, poi c'erano queste onde lunghe, no? E a dire la verità mi ha proprio bolliato lo stomaco, queste onde lunghe lunghe, no? Le stesse. Poi ho iniziato a gettarsi, io penso che siamo tornati in rifo. Che si sono leggere di vado a buscare il gioco, ma qui non so come. Perché lì basta che ci vai, qua cosa curiosa fai, una zampa di gallina li mettete ancora il tessuto. E li leghi la lenta a mezzo. Poi fai scendendo e salendo, come tu sali e scende, la zampa di gallina si muove, si allarga, si stringe, il corpo si va, si butta accosto. Sì, sì, sì. Ma io ce l'ho portata proprio quella bianca che ha 4 anni, 4 anni, diciamo, no? E poi c'ha la farina che tu stacchi per attaccare il pesce o quello che ci vuole attaccare, capito? Sì, sì, sì, si può attaccare il pesce, si può attaccare lo bambino. Adesso vendono anche i granchi finti, vendono un po' di roba. Perché col granchio finto va con una santata avvicinante. Col granchio finto, perché mai diciamo una punta, solo con questa bustina, costa 5 euro ce ne sono 10 così. E sono fatti di coso, come si chiamano. Ma ti si ricopre, ci rimangono un po' di più. Tu cosa fai? Ti entri l'ago e ti fa passare il filo dentro, la lenta. Poi dopo che è passata la lenta, lì li rimetti l'amo nella lenta e ti fa entrare l'amo dentro. Ti ho provato, cioè con le scampere e le scampette, mi dirà la Giuseppe di vicino. Ora ti manco più la santa da metà patricino, un bucciarino dentro. sì, né di caucciù dovrebbero essere, una cosa del genere, quel materiale lì, un materiale plasticoso, e adesso già li compro, adesso non lo so, li compro, giusto a provare, sì, perché dice che stanno mangiando granchiti, ma che neanche più granchiti si trovano, cavolo, boh. Ho messo la sardina legata nella riva, ma con granchietto è uscito. No, ce n'è più, c'è proprio attacca. Lo sai dopo di poter trovare, ma se sentivo un pezzo se ce n'è ancora. Ma la volta che ci ho questa storia del Leo che ha inquinato tutto, con granchietti, non se ne sono più pesci. Gianni, perché sei di nuovo basso? Nuovo basso, sono guarda, letto. E adesso va bene, vai di nuovo. Mi ha un po' io, ma sono bello. E io? Mi ha un microfono, ma quello che mi ha lo so per niente, perché sono andato due volte e non sono pratico, la verità. Ma comunque come desiderata mi piaceva, c'ho mal di pace ancora da quando stavo lì dentro. Cosa? Piaceva? Ho detto che come pescatore non sono bravo, non sono esperto. Ho detto come inizio di serata, è andata bene perché ancora il mal di pace da quando stavo vedendo per la battuta che ha fatto Leoncino. E cosa ho detto? Leoncino? D'accordo! D'accordo! Vanamarti, è te, a Vanamarti. È bastardo. Vabbè, comunque, che stavo dicendo, che ho messo tutti i pivi esca, ho messo, con Leoncino abbiamo messo i grandi grandini, cosa avevamo il giorno? Grandi grandini, poi abbiamo preso con comuni di tutto, va via. Beh, fai questa spacca che ha mangiato con la roba finta, te l'immagini? Mi ha saltato tutto. Eh sì, va così. Alle volte mangia con la roba finta il pesce. Adesso la prova, se lo so, vado in quelle nozze grandi di fronte alla... al cimitero, lì, quelle nozze erano aperto, lì ce l'hanno tutto di più. Allora, ti converrà andare da Antonio, io li ho presi lì. 5 euro costano, hanno questa cosa puzzinosa, cazzo, la fiaca, sono in mezzo a un liquido puzzolente per conservarla, no, per... ah cazzo, ti sto dicendo che non me lo sarei aspettato da così, io l'ho voluto provare così, mi ha detto va, lo provo, ho detto va, prova, sono come buoni. A me la roba finta non mi ha mai... Invece, mille sedie li ho sempre presi con la tontanana. E non ho tirato la tontanana, la cosa, se no muore in cane, a bagno, ho messo la tontanana e non prendevo niente. Alla fine ho preso e ce l'ho buttato in acqua, ce l'ho riuscito. Ma lasciate in acqua, a questo punto ho messo i segnali, dove i segnali non camminavano. Vado a tirare una cosa bizzarra, ma me non puoi far attaccare, mi si è attaccata la vera e tirando. Oh, allora c'era più spia. Era grosso, era una piovra, era grosso un figo, e siccome non era attaccato bene a me. Cazzo, ma come me l'ha tirato? Stava mangiando, si stava mangiando il pesce fritto, capito? è vero, è vero, mi associere. No, poi dovremmo uscire a provare una canna, abbiamo acquistato la canna nuova da traino, però quello devi stare con il motore acceso e a traino, capito? Motore al minimo che abbiamo capito. Dove fare? Così, proprio al minimo il motore. Tutto al minimo. Lascia andare la canna e via. Ma sai con che cosa va bene la zaina? Se trovi la muglia, sei a posto. Quella finta? Anche la finta va bene, lo sai, anche la muglia morta, se tu la trovi bene morta, va bene lo stesso, perché la muglia è come tutti i wiki, la capita, sembra... Ho capito, capito. Gappa. Avanti Antonello per venire. Io non sono esperto di queste cose, dunque non so cosa aggiungere. Vediamo un po' se Leoncino è un grande pescatore. Avanti Leoncino. Io già di qua come pesca già ne so qualcosa. E tanto sono sempre in... E credi qualche? Vado sempre in... Sì. Dunque... E ci credi che è un grande pescatore? Capito. Sì, sì. Siamo i due champi. Caso. Dite la Leoncino... Dimmi, non ci cosa è successo a Pantavo. No, a tuo figlio lancio la canna. Che paura. Mi è imbaricato che no. Sta mangiando, però no. Non riesco a tirare su il pesce. Dice, dammelo un attimo a me. spesa, cioè intende come lei, mi dà lo strappo, tanto ne tira fuori una mormora a caso, avrà pesato il signor no, un 300 grammi, 400 grammi, una bestia, cazzo, ma guarda, cazzo me l'ho vista, cazzo già, la morma, pila il corpo, pila il corpo, ah vai che non c'è bisogno del corpo, perché questa è piccolina, sì, è grande, però no, non è di quella marcia, cazzo, ma bella, una bella morma, hai toccato me. All'ultimo delle parate. E poi alla fine l'ha fatta mia madre, l'ha fatta impanata, hai capito, è fritta. Ah, e allora è finito bene. Hai capito, io l'ho fresca di la magnata. E beh, cosa dovevo fare? Era nella casa mia. Lui, sì, lui aveva preso, però, infatti raccontai cosa ha preso lui, l'elemento, no? Lui ci ha preso tre orate, cazzo, non ho capito. E cazzo, ma qualcosa a me di grosso doveva toccare, no? O fa che? Vabbè, ma le orate la pigliate anche a nei gialli, però. Beh, era pigliato lui, ma io ho pigliato, lui mi ha detto, cazzo, è preso, sta mangiando, ma sta mangiando, c'erano pesci piccoli, e mi dice, dammi un altro a me, come gli ho dato la canna, ha fatto lo strappo, tac, una bella morma, ha detto, vai, io. Buono, buono. Ma invece c'era padre e figlio a tornare al discorso un altro giorno, già, nella spiaggia. Ha tirato un figlio e ha tirato un babbo muto. Che sarà c'è il culo? Era vero. Ero proprio davanti alla... poco più avanti della... dei cose militari, diciamo. Lì non c'è perché è bello, perché c'è un po' di luce e c'è anche spiaggia, quindi... pesce la luce e pesce la spiaggia, prendi anche Bissara, cazzo la città. Se ti esce bene la cosa, ho preso, come si chiama, la rata, le orate, i sarani. Una volta ho preso una leccia a stella, cazzo bella, che aveva ogni coda lunga, avrà pesato 1,5 kg, roba del genere, cazzo poco tirata, non sai come l'ho presa, ho lanciato e si è attaccata, perché un predatore come la cosa può finire. Sì, beh, si lancia subito a muovere da muoversi, è vero. Ma c'era gente professionista, cazzo, un canne, appoggio al canne, gli animali, non ha nemmeno una toccata. Arriva il vizio, lancia padre e figlio, padre, prima ha preso il figlio, una bella orata. Piglia a casa la casa di trovare, ne ha cavato una rata, ma bella, veramente bella. E per neanche dare scatecismo. Comunque, fino al divorzino, a Portortore sono preso così, io in una sera, 5 rate e 4 sale. Ma ci credo, non è bisogno dei posti anche, della conoscenza dei posti. Tu sei battato, vedi? E di fianco pure sei, tu sei tanto d'accordo di come girate, quello mi hai fatto per ballando nel computer, la giurica ti giro così farete di endosi tu bravissimo Ciani sei bastardo sì. Più ce la faccio il filo adesso ti dico che una passata perché ho fatto un amico praticamente che lui veniva sempre con me a pescare come fare uccino però io prendevo e lui no. Un giorno mi hanno regalato questi grandi che sarebbero il paguro invernato, quindi quello di alto fondale, che hanno il granca dentro la conchiglia, c'è invece però di quelli grossi. E quelli sono in pasto per i pati orata. E fatta da che sono andato a pescare, ne ho preso una di orata per la grossa, sarà stata un 3 o 4. Mi ha telefonato a questo amico mio, gli ho detto, Lucia, guarda che sono andato a pescare, c'è il gran buio, però poi io devo rientrare al lavoro, quindi cosa faccio? Ti rilascio a te e ti inizio a pescare, poi quando esco dal lavoro, se te ne sono accontati, peschiamo insieme. E lui mi ha detto, vabbè, no, ma che cos'è che non pesco mai niente quando vado io? E ho detto, provaci che il gran buio, vedrai che ti dice. Mentre io, cosa ho fatto quest'orata? L'ho messa dentro una rete. E non messa a bagno nell'acqua, legata al muro, perché era molto cattaneo, ho legata al muro, c'era un chiodo, l'ho legata con una lenta grossa per prendere i grugni. E fatto sta che l'orata è rimasta un minuto, in 10 minuti lui è arrivato lì, lo vedo, come lo vedo arrivare, prendo questa lenta dove era attaccata l'orata che c'era a bagno nella rete. La prendo la lente e faccio, oh già, corri, corri, mi si è attaccato qualche cosa di grosso, un cazzo, mi ha buttato la sacca in terra, viene correndo, prende la lente, tira, gatto, e trova, e si risale l'orazzo dentro la rete. Tu sei bastardo dentro il fuoco, bastardo, bastardo, bastardo, bastardo, bastardo. Oi. Ah, ci. Ci sono, beh, stavo ascoltando. Stavo ridendo. Io stavo ridendo. Pensavo che mi fosse lontano. Siamo al dopo per le lette. Un certo di bene la cerina, se no ti esce dopo delle pece, trova di c'è cose, va a far bambù. Cos'è un gentile? Tu capita che a me non tornare senza nulla, non è che... Secondo le serate, se va bene va bene, se va male pazienza, a me la pesca invece mi rilassa. Sì, quello sì, per carità, ma tu che sei uscito con Lioncino, un tuo giudizio, com'è come pescatore? Almeno un tipo come Tampei ci può arrivare? Da Lioncino si fa le sue pescatine, da prende qualche cosa, non è come Luciano, non è come quel mio amico, quello tanto di fa qua, gli armavo una canna io, c'era una canna in buone, gli armavo una canna io, tutto quanto, stessa esca, vicino a me, attaccato a me, e prendevo un pesce, e io stavo solo pescando, solo pescando. Cazzo che mi guarda, no, cazzo, ma tu cosa vai? L'ho contratto a Lombrini e fatto, vai di venire a picchia. Cazzo tu, cazzo mi pare che hai fatto il contratto con il diavolo, altro che, no, non con il prete, no. No, non diavolo, ma... Avanti, Vanamarchi, ci sei? Via, via, che dire, è la fortuna, molte volte è anche la fortuna, si pesca fortuna. Molte volte dipende come si ama, la carne, come si fa, e tante cose ci sono. Alle volte si sbaglia anche come si ama e la bocca muta. Addirittura mi è capitato a prendere quei bigattini, pensa un po', quei bigattini, non è che sia questa grande esca, comunque qualche pezzo l'ho levato con i bigattini, per dirti. Tutto qua. Con la coppia di amici di tutto se c'è una coppia di amici che vanno al molo si riempiono, si mettono questa rete in acqua, sempre piena di pesci, tanto, non dico grossissimo, ce ne sono anche da 200-300 grammi. Beh, la però sono andati a sollevare la rete, ma rete, perché c'era il polpo attaccato, ha visto i pesci e si è attaccato la rete, hanno preso anche il polpo da te. Beh signori, io mi lascio al vostro questione, passo un attimo di bianco, c'è altre cose da fare, si riascolta alle migliori le prossime. Ciao Giuseppe, ciao Gianni, ciao Antonello, ci si riascolta, guardati da parte mia. Eia, ti auguro buonanotte, però ogni tanto fatti sentire che non sei più entrato. Fate il ping, dai, fate il ping. Va bene, come non detto, dai, aspettiamo le prossime, le migliori. E io, buon proseguimento di serata, zio Palchetto. E io, tutto quanto cambiato a tutti, dai, ciao, ciao. Ciao, Antonio. D'accordo. Perché vanno avanti? Perché, quando fa la voce... D'accordo. D'accordo, cazzo, c'ha la voce è uguale a Vanna Marchi. L'ho sentito, ho capito il perché. Che ora ci hai fatto, ragazzi? Che ora è, Gianni, lo sai? Allora, via. Tu che c'hai l'orologio al polso, che ora è? Il polso non è porto, devo alzarmi e controllare. Ciao, no, okay, allora ripeti Giuseppe, le 10:10. No, no, è perché... Ehi, c'è il bimbo del fuoco, la telechiagna, dai. Ui. Io non mi alzo, oh già. Ma perché io dopo di mattina mi alzo più male in tempi? Io devo essere alle 8:30 a lavorare. Mi alzo alle 7:20 perché devo preparare i gatti prima di andare a lavorare. Mi devo lavare io. Preparo le colazioni per tutti. Poi prendo Marcolino, l'accompagno alla fermata del tramite, ci prende il ferro e lascio la sopra. E poi io vado a lavoro, dopo tutte queste cose, cioè ho già lavorato prima di andare a lavoro. Sì, d'accordo con te, però, già io me l'ho fatto. Domani mattina me ne vado alle 7, perché alle 8 io devo essere già su, hai capito? Dunque, già pronto all'opera. Vabbè. Oh, stasera non ce l'ho fatta dormire. Mi sono sdraiato nel letto dalle 2:30. Ho guardato un po' di televisione. Mi stava venendo l'abbiocco verso le 5:30, sì. Dorme qua, dei genitori della ragazza, studia a Sassari, con la scusa per stare vicino a lei, capite? Dunque sono organizzati così. Anche da noi c'è una commessa che ti cade, una commessa che ti cade, lì c'è un ragazzo conduttore e lì è venuta da cade e poi ha trovato anche l'altra. E lo so, a volte sai, ma non te l'aspetti, trovi le occasioni giuste al momento giusto, che cosa vuoi fare? Bisogna provare, altra soluzione non ne ho. E ha provato tutte le parti, giù non so a casa, non so più dove andare perché li ho fatti tutti. Comunque mentre prova c'è un'altra modulazione, avanti. Io non che sia sovramodulato, non ci ho capito niente. Comunque, sì, l'ho capito la combe, che sì, l'ho portata anche lì. E poi che stiamo detto? Niente, ritiro il curriculum e poi ti faremo sapere. E poi non ti chiama mai nessuno. Prova a Porto Torres, gli ho fatto tutti i negozi di mobili, ma a quanto pare anche lì sta andando male, chi sta lavorando poco, chi ha i padroncini, come si usa adesso, sempre soliti discorsi. Quelli di mobili, ma hai detto che la riguardano già con il mobiliere? Ce l'hai provato la prima. Chi? L'ha detto, l'hai provato. E chi è? Ma sempre a Porto Torres. No, da Peddu, dovrà bravo. Ah, Peddu. No, lì c'ha già due ragazze, il suo personale. Uno c'è già lì quasi 29 anni che lavora lì, più un altro Rabbiosi. Lavora come datiloca, poi fortunatamente è entrato lì. Ma per i due a quanto pare, non, anche lì c'è pochissimo lavoro. Sono bravi, sono molto bravi che fanno le cose. Addirittura mia moglie l'hanno piazzata in mobile il coso e c'è un compagno da piantare, l'hanno visto, ma signora, però ripeto le prese, signora, mettiamo uno, Sì, no, ma Peddu se lavora così, io ce l'ho fatto due anni perché ero contratto a formazione lavoro. No, sono puliti, ordinati, guarda, se nel caso poi capitava a volte degli imprevisti, cosa ne so, piantavi una cucina e sfortunatamente l'azienda metteva una maniglia in meno, ecco, in giro di 6 giorni tu avevi la maniglia. Confronto altri punti in cui ho lavorato e facevano passare non 6 giorni, no, 2 mesi, 3 mesi, 1 anno per una maniglia. No, appena lavora bene, niente da dire. Ma ti devo dire una cosa, abbiamo comprato una camera da letto, quella è buona, dai. E ci hanno portato un comodo, e a un certo punto ci sembra anche in faccia, la signora, non mi ero più di andare via, perché? Guarda, c'è un set solo, non va bene. Oh, ce l'hanno portato via, ce l'hanno cambiata. Ma infatti bisogna lavorare così, giustamente lì è colpa di chi o dell'azienda che te lo spedisce così oppure il camionista che sinceramente non sono tanto delicati quando scaricano e caricano. Sì, in queste occasioni sempre, no? Sono stati veloci e non, diciamo, accontentano molto il cliente. Il modo di lavorare è quello lì, è giusto che sia così. Ripeto, cosa che tante altre persone non fanno. Adesso per dire io ho fatto un mobile da Giambio, siccome lo devo integrare la camera da letto, ho fatto fare con lo stesso disegno degli altri mobili, quello che sono messo da apparire. E le maniglie aggiungo non le ho fatte a mettere, perché le maniglie mia moglie le vuole qua, lo stesso modello che c'hanno i mobili della camera da letto, uguale. Ha telefonato a me e ha detto sì, non c'è problema, le ordiniamo. Prima ce l'ho chiamato per dirci che era nel cerchio se ne volevamo, grazie a tutto che te l'ho telefonato alla fabbrica per fargli lo salmente. E noi abbiamo detto quelle più piccole, quelle dei cassetti piccoli del comune, quelle mobili del baracchino fanno bene quelle più piccole, quelle grandi sono nei cassetti grandi. Giustamente, per non stare lì a aspettare molto con l'arredamento, ma diciamo il mobile che vi hanno costruito, quello artigianale, riporta il colore della camera da letto? Abbassa. Sì, alla fine è giusto che almeno anche le maligne lì siano uguali alla composizione, ma per la camera retro l'avrete presa da poco per avere le maniglie, diciamo, di quel modello, perché a volte in uno o due anni o massimo tre vanno fuori di produzione perché fanno nuovi modelli. No, no, ce li hanno, è una camera retro che abbiamo fatto un po' di su, l'abbiamo cambiata da poco, ce l'abbiamo un massimo un anno e mezzo, qua ce l'abbiamo tutta bianca, e il mobile del paragoni era bianca, il che poi l'abbiamo cambiata, e l'intenzione nostra era sempre quella di fare la video o da una sorta legnare, aveva capitato di fare questo mobile che diciamo rispondava e così abbiamo fatto, abbiamo fatto questi disegni, eccetera, eccetera, abbiamo fatto delle nuove, adesso abbiamo solo la famiglia, ma io ho fatto la ma il modello del camaretto, la tua cos'è? La carta, è la carta bianca? No, la mia è tipo noce, color noce, così. Perfetto, le ante sono scorrevoli o battenti? Scorrevoli, le ante grandi scorrevoli. Tutto color noce, ma come l'avete acquistata? Vabbè, sai che legno o truciolare? Perché sono diverse tipologie di mobili. No, no, questo qui è legno. E poi una curiosità, che azienda è? Affitti. No, l'azienda, la marca del mobile che hai acquistato, la cameretta. Camera no, questa è la camera da letto. Guarda, sono firmati i cassetti all'interno. Volevo sapere che azienda è quella che tu hai acquistato, te la ricordi? No, quello lì pensavo allora ordinario, io dopo vediamo un po' più lo stesso. Posso guardare quando la tiene tutto i cassetti, perché lui mi si è firmato. Ti dico subito che sei di buona qualità, perché le conosco abbastanza varie aziende di mobili. Così per togliere una curiosità, sicuramente non è le Fabli, no? Ah? Oh, signori, io vi auguro buonanotte, ci sentiamo tutte quante alle prossimine. Ciao Gianni, ciao Antonetti. Se abbiamo il modo di vederci, arrivederci, ci vediamo domenica mattina a Piazza Lecini, ok? Eia, Franco, ma tu avevi salutato che te ne andavo via? Se ne andavo il cambio io, Antonio. Credevo che avevi chiuso, va bene, non c'è problema, d'accordo. Ci sentiamo alle prossime, allora dai, buonanotte e buon lavoro per domani. Ah, ciao, buonanotte. Ciao già. Ti sapevo tutti i cazzi di vedere la marca. Se è stampata a fuoco caldo le Fabli. Se non ce lo stampo giù in basso nello zoccolo vuol dire che è un'altra azienda. Poi c'è scritto vero legno a fuoco dentro il cassetto. Però nell'azienda non c'è scritto il nome. No, non ne ho visto il nome dell'azienda. Io... all'interno del cassetto c'è scritto affatta fuoco, c'è scritto vero legno. Oh, va bene, le Fabbri lo scrive così, le Fabbri si vede direttamente le Fabbri col suo stemma a fuoco. E poi bisogna vedere che azienda sia, non lo so, così non riesco a capirla. No, comunque, almeno nei cassetti dei comodini si vede proprio la venatura, il legno in sé, nell'angolo dei cassetti dove scorre il cassetto. E allora una buona camera. No, quella costruzione della rete è buona, c'è anche lui, che è la sala che abbiamo preso. Se sono una cameretta l'ho fatto per 10.000 euro. Allora sì, guarda, io ho conosciuto una persona che aveva speso 25 milioni, ti giuro, no, sì. Quasi 20 milioni, 20, 25, forse 25 si è esagerato, ma 20 milioni avevano usufruito della sua, come si chiama, liquidazione, no? E ci ha comprato questa camera letto completamente in legno, a quel prezzo lì. E lui ogni anno, per fortuna è un falegname, purtroppo lui sa benissimo che ai cambi di temperatura si allarga, si restringe, lui ogni anno deve sempre ritoccare i cassetti perché sono difettosi. che sia il legno non stagionato o che sia pure stagionato, il legno giustamente difetta sempre, c'è poco da fare perché può passare tutti gli anni che vuoi ma rimane sempre vivo. Dunque il legno prima o poi un piccolo difetto te li danno, e cassi, diciamo, nelle ante si potrebbero ovalizzare. Adesso se tu hai le ante scorrevoli, spera di avere dei regolatori nei fianchi delle ante in modo da togliergli la pancia se nel caso si forma, se no sei fregato. Io noi ci abbiamo già un anno e mezzo, diciamo che ha messo mano da poco, sentiamo un rumore allucinante. Cosa è successo? Un rumoraccio, apriamo siccome la camera da letto, non so se mi spiego, cioè di quelle pompe più grandi che hanno l'amboliere, eccetera, eccetera. E questo rumore era successo, mi ha crollato tutta la roba, sono praticamente crollate le messe e le piane, perché sono tenuti da una cartone, si fanno le fesserie. Lo so, comunque più ti allontani meno ti sento. E Giulio, Giulio praticamente mi ha messo dei reti sotto per sostenerlo bene, e c'è per forza si sono, hanno messo questi sostegni che non servono a nulla, per forza che cade col peso. Per evitare, mettono sempre quei piccoli perni o in legno o in ferro o in plastica, come ce l'avete, in plastica o in metallo? Metallo. Sono piccolino, ma di regola reggono, poi dipende sempre dal peso in cui metti. Poi se i ripieni sono troppo lunghi, col peso si ovalizzano al centro e c'è anche lì un sostegno, è cosa che le aziende non li mettono mai. Come la famiglia parla di parlare più, mi ha messo i sostegni sotto di legno, mi ha fatto dei vestiti ben fatti, mi ha pulito bene. No, no, adesso c'è per lo sicuro più lo Stato. E cosa vuoi fare? Quando il posto quello che è, negli armadi ci metti tutto quanto, ci metti i piumoni, ci metti tutte le cose che lo fanno vestire a pesa. Sono accomato tutto, praticamente come ho fatto quella rotta anche sotto c'erano gli appendiati, e ha rotto anche sotto gli appendiati, quindi ho fatto tutto in terra. Quello sì, alla fine la camera l'ha aspettato con l'ho battuto oppure però battuto oppure il legno anche quello. No, il legno, la camera, i legni sono il legno, no, non è proprio. Era la camera per la ragazza, quella lì. E anche quella è CD, l'abbiamo pagato un po' di su. Noi diciamo, noi abbiamo dei comodini, sì, comodini in legno, poi ferro battuto di un'altra azienda, e abbiamo fatto un trittico alla fine, dai. E l'armadio che non aveva dei battenti, però color panna chiaro, con dei rilievi, diciamo, romani, dai, che è una cosa stampata. Abbiamo fatto uno stile, i comodini in letto e l'armadio sono tre stili diversi, abbinati, ecco, tu c'è tutto un set completo, ho capito quello che stai dicendo. Se ti allontano si sente in lontananza, un bel passo. Guarda adesso come va? Adesso va bene. Devo provare la parola, il microfono è sotto per forza. Ah, perché ce l'hai giù in basso o come ce l'hai questo microfono? In basso, da capo stai dicendo. Diciamo, basso intendo come posizione, in vicinanza lì. attaccato alla porta. Non attaccato esattamente alla porta. Però non mi piace la porta. Scusate un attimino, Pinocchio. Aspetta un attimino. Ma strano, Claudio non entra oggi. Sì, la sera poco fa. Ma c'è tutto il giorno. Sì, oggi spero che sarà anche stufo. Forse era riposo, allora è pensata. Mi scusate un attimino, il controllo stazionale mi facevo un regolavoro. Brecco. Eia, sento un brecco, avanti il brecco. Ciao Antonello, ciao Gianni, Fabrizio da questa parte, in BM. Faccia un po' l'ecco. Non è un ecco, tu dove ti trovi? Adesso, Santa Maria. Piccolo piccolo, va, è abbastanza comprensibile. E cosa ci fai da quelle parti? Andando al lavoro. A quest'ora? Non si finisce mai di lavorare. Già lo so. A volte non si finisce e a volte si finisce. Vabbè, sì che ce n'è. C'è Gianni un attimo che sta regolando. Sì, ci sono io, tu Gianni. Ti copio poco e niente, incomprensibile. No, però io tu mi arrivi forte. Ma lì a te tu mi ricevi bene. Affermativo. E vai in piedi, sicuramente per me sei in zona negativa. Gianni, mi illumini, avanti. Scenandia. Dio mio, bella Ascovia, cosa stai usando? Buonasera. Cioè, come? E come lo vuoi usare? No, non so, tu volevi dire cosa stai usando. Niente, non so per aspetta cosa. Ma comunque è bella, forse perché è piovuto, non lo so, forse è bello potente, buonasera. C'è Gianni che sta cercando di riguardare stazionale, non so cosa stia combinando. Gianni sta combinando la stazionaria. E io vado adesso con questa pioggia. Bisogna tenere un po' sotto controllo. È entrato, non si è uscito per niente a portare il cane a fare la sua passeggiata. Ascolta, toglimi una curiosità, da parte mia sempre. Quando moduli quindi vivi 9 quasi 30, con dei picchi allucinanti, veramente. Però da 9.30, quando moduli, da 9.30 scende a 9 e poi risale a più 30, poi scende a 9 e poi risale a più 30, è possibile? Eia, insegnami, quando sono positivi salgono in alto, se sono negativi scendono giù. Ma c'è uno sguardo allucinante da parte mia, Come non mi ascoltate? Va bene. Va bene, forse non è come. Forse io sto usando sempre la solita cosa. Niente di particolare. Forse Gianni. La radio non è buona, non è buona la radio, sempre la sento così strana, con una scala troppo bene. Ascolta un attimo, ma anche a te Gianni ti dà quelle stentorie, a me le fa, arriva a 9 più 30, poi quando modula da 9 più 30, da più 30, il mio Smith scende a 9, poi di colpo sale di nuovo sulla manetta e poi riscende di nuovo giù, te lo fa anche a te questo effetto? Saranno i picchi di modulazione, hai capito? Perché ci sono dei momenti dove non parlo, per dire ci sono quei piccoli spazi che lo Smith logicamente tende a mollare. Ha ragione Antonio, anche a me non è. Questo qui va indietro. Quindi non sono picchi negativi. complicata. Ma quasi di colpo, si è rialzato di colpo, ma a scendere. Di colpo a scendere, poi quando diciamo non parli sale su fermo, tranquillo. Un ottimo segnale, abbastanza potente, abbastanza contenuto. Poi quando moduli scende e sale, scende e sale. Antonio, io quando mi sto arrivando adesso? 9 più 10, quasi 15. Ma sempre conosco sul paracchino della Cuglio, più che altro ne avevo 2-3-30. No, già va bene, già va benissimo, ma poi c'è una bella modulazione, niente da dire. Adesso sinceramente non voglio fare preoccuparlo, ma la verità l'ho visto, so che è strano. È la prima volta che vede questo effetto quando uno modula. Aspetta un attimino allora. Ok. Però adesso in questo passaggio cosa è successo? È più grossa come modulazione, però i picchi sempre in discesa ci sono di meno, ma ci sono sempre. Non leggeri, abbastanza accentuati, però ha migliorato un pochettino, però quell'effetto c'è sempre. Vabbè, sono i picchi di modulazione, dai. Sono i picchi di modulazione, niente di particolare. Vai. C'è un po' meno in questo periodo sai io. Conosco tutti benissimo. Se l'ha fatto, ma si leva nella venti, appendo le da venti e ti locca. Aspetta che per un attimo non ti ho sentito, Antone, scusa, cosa hai detto? Guarda, vaccinema, arredamenti, via Mendola, che se si è trasferito, ha preso arredamenti delle Porto Torre, se ti locca, ex ti locca, perché poi ha fallita Rossi. K, benissimo, ok. E adesso che cosa, stai lavorando in gruppo, cioè hai un mezzo, come si è organizzato? No, assolutamente, ho giusto dell'ultimo che stavo lavorando, Xinema alle 20, è andato male, ci ha licenziato a tutti, così a volte faccio piccoli lavoretti sempre, quando mi chiamano per piccoli traslochi, ma niente di particolare, sono fermo. Ok, ok, allora segnati questo mio indirizzo, mi mandi una mail con il numero di telefono e nome, cognome, e poi magari ci sentiamo e ti faccio sapere. Aspetta che prendo la penna, non ti muovere. Sono qua, non mi muovo assolutamente. Ma è Claudietto, il tower di controllo, Gianni, è lì che sta in pigiama a guardare la TV o con l'orecchio teso oppure qua presente? Claudietto, mi sa che stasera è stata tutta la sera alla radio, che forse era libero e si è stufato un po' di stare alla radio, allora magari si sta guardando la televisione, secondo me, o ci sta ascoltando, con lui che ci ascolta e con l'altro ascolta la televisione. Sì, eravamo in radio anche prima e quando sono uscito dall'ufficio stavamo chiacchierando nelle solite cose nostre di radio. Aspetta un secondo che devo fare una commissioncina, un attimo. So che mi fa piacere che stia tirando molti radio avanti. Fa piacere, sì, che qualche radio avanti si sta entrando anche Archimede, c'è tanto tu, ogni tanto entra avanti, questo mi fa molto piacere. Mamma mia, mi hai fatto venire l'orticaria, Vespa, hai detto un animatore Walter mi è venuto più lì, madonna, adesso una parola prima che si accidenti. Juventus batte Fiorentina 2-1. Qui, arrivi tu, ciao Giulio. Ciao, già. Ciao Marco, chi c'è qui? C'è Torriosi, c'è Deoncino, poi chi è entrato? Intanto Falchetto ma se n'è andato, non mi sembra che c'è nessun altro. Ciao Antonello Diussi e ciao Leoncino se ci siete. Vabbè, riprendi Marco. Campa giù, ciao, buonasera. È ben collegato. Ma ho capito, ma Antonio dove è andato? Da Chiarella a prendere la penna. Antonio sta spennando il pollo e sta fabbricando l'inchiostro. Ecco la parola di Amatore. Aizetta, pronti? Siccome mia figlia le penne ce le mangia, avanti, sono pronto a scrivere. Ciao Giubi, scrivi IS0KEB. Scritto? Aspetta, detta piano, IS. Vabbè, si sei così lento, però ne vuoi andare a travagliare, cioè IS0KEB, il mio nominativo. Aspetta, dammi il tempo, no? IS0KEB. Benissimo, @gmail.com. Lo sta incidendo sulla pietra di Mosè. Ti serve un mobiliere che poi vi. Mi servono soldi. Mobilieri ce ne sono abbastanza in giro. Non è bisso, di che province sono? Ho comprato la fotocopiatrice. C'era anche io, ma quelli a colori non escono proprio uguali, Sì, vabbè, passiamo un po' l'inchiostro, quello verde e quello viola, vedi che vabbè. Buonasera a tutti, canale 10, ISZBFB. Aspetta un attimo, ISZKEB@gmail.com, poi go, cosa. E poi basta, mandami una mail e ti scrivi il telefono, nome e cognome, indirizzo, eccetera. Poi ti chiamo e ci sentiamo. Mettigli il francobollo all'email, se no non arrivo, con un biglietto a 500. Eia, va bene. Clara, ti chiamo più di una volta, non sei entrato. Cazzo, mi stavo guardando un filmone di Robova e mi stavo anche addormentando, ho sentito un'altra voce, mi sono svegliato e sono crashato. Comunque buonasera a tutti, ciao Giuppi, ciao anche a Maestro Giulio. E no, mi sa che questo cane 10 è diventato il cane dell'animatore, ciao Gianneo Perù. Ciao, sono io l'animatore. Io sono l'animatore. Tu sì, io sei il Lava e Gianni e io sei il tuo Lava. Giulio e invece io sei il come si dice? Io sei il Trucciolare, TRT. Come siamo su 45 metri, ISL 0 Gianni. Gianni ha fatto l'elicottero però. Claudio, auguri per la Juve. 2-1. Ehi, quanto sono contento, dopo quel pareggio. Guarda, mi stava arrivando una 5 per il nuovo Alzheimer. Ehi, mi stava domandando, ragazzi. Porca miseria, un bel filmone. Ok, quindi riprendiamo le ordinanze, a chi tocca la civiltà riprendito e fai girare, Antonè, se sei un nominato, ti auguro felicità, eccetera, eccetera, farò andare, mi raccomando, segui le cose che ti dice Marco, capito? Perché io l'ultima volta che l'ho seguito sono caduto dentro un tombino. Lascia perdere allora. Sì. Sei chiuso la tombina, ma perché stavi rotolando dalle risate, ti stavi rotolando. Sempre, con te mi rotolo sempre, lo sai. E ti ho volato me di non andare mai in fiera con Marco, perché vai, ma non sai se ritorni. Non sai se ritorni. E soprattutto stai attento che parta senza niente in mano. Se c'è una valigetta non partire mai con lui. Soli di là. Documenti. Lascia perdere, va. Cazzo. Una valigetta abbiamo mulittato mezzo Milano, ma anche gli elicotteri sono arrivati e pensavano che c'era una bomba dentro il tram. Voglio cosa avremmo combinato, ragazzi. Mi sembra registrato un bike avanti, che buonasera. Qua la stazione IS0 DFB Claudio Assassero, non una garanzia. IS0 città dello garaggio. Ah, questo me lo attimo lo mette a log. IS0 CDC, bello, città di un garaggio. Io mando giù, metti un po' di ordine, metti. Ciao Sandro, buonasera, ben ascoltato. Buonasera a tutti i circolari. Siccome Antonello è abbastanza spaventato, ma dice che sono picchi negativi. C'è anche una parte. No, picchi negativi non ne hai, sei 9+20. Ma segnale qua è fermo, non noto nessun picchio negativo. Giulio, riprendi. Ok, no, nemmeno io ho notato nessun piccolo negativo. La radio sulla vetta che sta strappando, secondo me, tutto lì, niente di particolare. Ma mi sembra che sia anche Massimiliano, vediamo un po'. Massimiliano, ci sei? Io ci sono, ciao Giulia. Ma il segnale sarà anche buono, ma la radio che fa non è bella, per non dire altro. È diversamente bella. Comunque a me lo fa sempre questo effetto, poi ripeto, può dipendere dalla radio, comunque qua lo fa, è la prima volta che vedo questi picchi che scendono proprio abbastanza velocemente, su e giù. Lo fa anche a me. Ma com'è? Avanti indietro o indietro avanti? La scende a più 30 a 9, da 9 risale a più 30, poi scende, sale e scende, diciamo, rimane a più 30, poi scende a 9, poi risale, poi riscende di nuovo, abbastanza forti come movimenti, è per quello che glielo ho detto. Mamma mia, tu c'è lo smitter come l'aereo che ha preso Marco quando siamo andati a Milano. se non l'ha vista lui questa differenza. Ah, è bello che c'è anche gente più lungo, che c'è anche lui la nostra questa differenza. Non sono solo, poi giustamente ho visto e giustamente gliel'ho detto, poi non so cosa dirti. E magari lo fa di gamma. Ora sì. Posso andare per dire apparato, mettere il Midland 68 e se, vedere se fa questo effetto. Aspetta un attimo. Aspetta un attimino, aspetta. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Così va bene, modulazione. Sempre facendo da parte mia, aspetta che cambio il filo. Qui da me i picchi sono positivi, adesso. La radio non è delle migliori, però i picchi sono positivi. Vai Marco. E qua sì, come sono. Bella questa. Va bene, dai, io sono arrivato a casa, vi saluto, poi non so se riesco, magari riprendo anche la casa, dai, vediamo un po' com'è la situazione. Comunque, buona serata a tutti, buon proseguimento. Marco Scorpiano, QRT, Antonello, poi ci sentiamo telefonicamente. Allora, ciao ciao. Marco. Ci sentiamo dopo, Se non ci sentiamo... Marco. Ciao Marco, ci sentiamo allora. Eia. Avanti, aspetta un attimo. Che regola, ecco qua, sto usando il 68 con il microfono da Palmo. Avanti, Porto Torres, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' di andare sulla normalità qua, se no qua è un casotto. E adesso come andiamo? Adesso guarda, qui mi segna invece adesso, prima 9+30 sul Galaxy, qui invece sul 68 Santiago Lope Radio 5, e da 9 anche qua mi scende da 9 a 7, da 9 a 7, e viceversa. Non sale da 9+30, no? Scende anche qua, da parte mia. No, qua è 9-9-5. Cioè 9-5-9-10, scusa. Credo anche dagli altri. Comunque devo fare un interrogativo. Deve sapere una differenza. Hai? Il bello che poi visto là è da una parata all'altro cambia. Sapere che differenza c'è tra un uomo e una scopa. Qui bisogna pensarla, tra un uomo e una scoppa. Tra una bottiglia e una domenica. No, prima questa, che differenza c'è tra un uomo e una scoppa? Io pensateci bene. Tutti orecchi avvicina la bocca al microfono, se non ti sento. Massimiliano. Ma differenza. Matteo Giulio. No, io ho fatto le scuole notturne, dunque non me ne intendo. Guardate che è molto facile, Sandro. Io ho fatto la scuola al terzo piano. Tutti i suoi ragazzi avete fatto voi o la guida piano. Antonio, come lo sai, tu chi sei nato? Marco, se n'è andato? Tu chi sei? Sandro, tu la sola differenza tra un uomo e una scoppa? Ascolta, in questo momento non mi viene. Non mi viene. Ma io dicela senza accettare sulle spine. No, non dicevo Sandro il dottore, si è affacciato anche Sandro Cona ad Alghero. Comunque, ve lo dico, ma è una cosa molto stupida, ok? Che tutte e due senza il manico non servono a niente. Che cosa ho detto? Che sono tutti uguali, non c'è nessuna differenza tra l'uomo e la scoppa. Tu non hai detto la cosa giusta. La differenza è tra l'uomo e la scoppa, che tutte e due, senza il manico, non servono a niente. Capito? La differenza tra una donna incinta e una bottiglia. Tra una donna incinta e una bottiglia. Io ti posso dire che la bottiglia si soffia e invece la donna incinta si pompa. Allora la bottiglia prima la sappi e poi la svuoti, la donna prima la salti e poi la gonfi, o no? No, no, no. La donna prima si riempie, prima si tappa e poi si riempie. La bottiglia prima si riempie e poi si tappa. Ho capito. Vabbè, mettilo giù. Come stai diventando lì notturna? Non lo so, sono diventato un vigile notturno, sono diventato, è per quello. Comunque scusami, Giulio, che non ti ho salutato, vai. Comunque, ne approfitto e vi lascio, perché vado a farmi la mia passeggiatina. Dai, buon proseguo e buon tutti alle prossime, vai. Riprendi, Cla. No, parlare tutti assieme, se non si capisce niente. Gianni, fai bravo, tu ci hai detto veloce. Ciao Sandro, buonasera per ascoltato. E alle prossimine. Buona passeggiata col dog. E con vostro permesso le faccio lì a Sandro di Alghero. Sandro Coma, buonasera avanti, con la speranza che ti ascolti, Sassari. Ma per chi non ha ascoltato Sandro Coma, rimane in ascolto perché ne riceve la metà e quindi vi ascolta, rimane in ascolto. Vi cordializza tutti. Microfono per Massimiliano, avanti Massimiliano. Continua in stand by per me. Io ce lo copio bene, attento Sandro Cona se mi copi. E buonasera e ben sentito a Porto Toro, ci sentiamo nel prossimo e buona passeggiata. Onan! Chi è Antonio Barracuda? Una Venezia, no, già ti senti, io già ti sento forte e chiaro, non c'è problema. Già va bene. Scusate un attimo, mi stanno chiamando, arrivo subito. Ciao Sandro, allora buon QRX, avanti Massimiliano, il QRX già ne riprendi. Di ieri notte per quanto riguardava l'interferenza telefonica eccetera, ho fatto una telefonata a un amico che è uno preparatissimo in fatto di telefonia, anche perché è un indipendente Telecom, e mi ha detto che la soluzione è praticamente quella che ho detto io, spostare il cavo, perché sicuramente il difetto nasce proprio da quello, cioè le armoniche del trasmettitore, che sono il cavo è troppo vicino alla linea telefonica, evidentemente riesce ad interferire, capito? Ci sarebbe una possibilità, bisognerebbe costruire una trappola, ma dice che è molto ma molto costosa. A questo punto è una cosa che non ne vale la pena. L'unica soluzione è allontanare il capo di discesa dell'antenna del trasmettitore dalla linea telefonica. Vai qua. Ma credo che abbia già risolto comunque, sono andato l'antenna di un paio di metri e non so che cosa abbia fatto poi. Altre cose. Mi pare che al 50%, cioè al 90% abbia già risolto, poi domani vedremo, perché dovrò fare alcune altre cose e poi vedremo se ha risolto del tutto, non lo so. E beh, sicuramente anche quello influisce, perché se il cavo passa sua linea può influire, sì, certo. Vabbè, poi ci faremo dare notizie, ma come mai Fabrizio? Già hai fatto lavoro. Penso che mi sì, perché poc'anzi si è sentito per un momento, ma poi evidentemente era anche già lontano, nei paraggi del trabacco, e allora ha smesso. Sì, sì, sicuramente è a lavoro, non ci sono dubbi. Vabbè, io lo sento sino a quando arriva al QRL proprio, non c'è problema. Ok, insomma, eravate in tanti, adesso non c'è più nessuno. Stanotte una tratta fresca, si è accolta una bassa parola, no, qui, allucinante in questa zona. Mi sa che sta incominciando veramente l'autunno. Vabbè, comunque stamattina ha fatto abbastanza caldo, Io avevo un giubbotto leggero, ma solo per precauzione, per non riacutizzare i dolori che ho alla schiena, ma devo dire che era troppo il giubbottino, anche se era leggero, però era troppo. Ma per la manica lunga e basta. Sono uscito, già anch'io, stamattina alle 6. Il giubbottino leggero, ma poi durante la mattinata l'ho tolto perché c'era abbastanza caldo. Adesso domani vediamo un po', domani c'era sicuramente un po' di umidità e quindi mettiamo questo casino. Allora, vento entrata e funziona, e allora mettiamo il giubbottino un po' più pesante e vediamo come la situation. Allora, chi ci è rimasto qua a Barracù? A quanto sembra stiamo rimasti noi due soli. Barracuda ha chiesto QRX per il bambino o bambina, e Archimede, anche lui è in QRX d'ascolto, vediamo un po' se può. Avanti Archimede. Io ci sono, sto con un codice aperto, sto facendo un programma al computer e ci sto ragionando sopra. Vi ascolto comunque. Ok, vabbè. Così, ecco qua. No, adesso sto tornando al discorso dell'interferenza telefonica. Io lo sapevo perché quando avevo il cavo RG58, siccome mi spiego, in facciata io ho fatto un foro ed entro direttamente in cameretto, sia l'antenna del baracchino che l'antenna telefonica, praticamente nello stesso foro. Non è che potevo fare io fuori perché secondo me era proprio la facciata. Vabbè, allora con l'RG58, quando io parlavo al baracchino, mia moglie mi sentiva al telefono. Dopo che ho sostituito il cavo, che avevo uno spezzone di una quarantina di metri circa di RG8, il vecchio RG8, e allora l'ho cambiato e ho messo quello, però lo spezzone filare, quello che arriva al baracchino, l'ho fatto uno spezzone, sarà un metro all'incirca per avere mobilezza, no, col piede. E ho visto che dal momento che ho cambiato il cavo non c'era più l'interferenza del telefono. Beh, certo, può essere giù, ma queste cose vanno fatte in una maniera tale da poter praticamente non avere disturbi. Adesso vediamo la cosa che ha causato questo problema. Comunque sembra che l'abbia risolto, sembra, poi non so esattamente se è così, ma credo che comunque l'abbia risolto, insomma, in una maniera un po' particolare. Qui stava dicendo stasera, quindi ci darà notizie lui, per vedere un po'. Va bene. Speriamo non farti arrivare domani, però c'è un sacco di cose da fare a CPK. C'ho tutti i campionamenti domani, che rottura di scatole. Ok. Comunque adesso il discorso acqua è buono in tutta la città, dappertutto, c'è ancora qualche zona dove ci sono dei problemi come là in quel periodo scorso. Non ho più assoluto, era una questione di una filtrazione di sporcizia sulla condotta che è andata proprio sulla linea delle acque bianche. È stata una cosa così, però allarmante, perché poi alla fine si è dovuto pulire tutta la condotta, quindi dare più pressione e far pulire bene tutte le linee. No. Sono cose che non devono succedere, comunque è successo. Pazienza. Spero che non succeda più. Che te devo dire? Che te devo dire, caro Giulio, questi guy. Ok. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa mi sono dimenticato. Non me la metto più. No, io dovrei andare quando mi deciderò da Vanoa per risolvere un problemino che ho con la bolletta dell'acqua, per il semplice fatto che a me mi arriva praticamente l'acqua come seconda casa qua, mentre invece io sono questa, cioè in poche parole, il consumo viene considerato quello che avevo nella casa prima, no? Dopo che io mi sono trasferito qua, è chiaro che ho dismesso la fornitura dell'acqua dall'altra casa. Però adesso la bolletta arriva qua, d'accordo, però c'è sempre inclusa la quota dell'altra casa. Praticamente sto pagando la bolletta doppia, perché mi viene considerata una doppia casa, capito? Ma tu non hai mai fatto la voltura, non hai fatto niente. Come non ho fatto la voltura? Certo che l'ho fatto la voltura, solo che c'era questo problema. Dove abitavo io? Era un contatore condominiale, no? Che era sempre intestato al proprietario della casa, e così è rimasto. Però ci abitavo io, la bolletta aveva il nome mio. Nonostante che io abbia fatto un nuovo allaccio qua, che è già una decina d'anni circa, e avevo dismesso quell'allaccio là, mi arriva sempre la fornitura e il pagamento della bolletta dell'altra casa, praticamente doppia bolletta, però in un'unica cifra, capito? Ho capito. Ma non penso che ci sia molta differenza tra prima casa e seconda casa. No, è il fatto che ne sto pagando praticamente l'acqua per due case, hai capito? Sia adesso là probabilmente considerano che sono io il noleggio contatore, non lo so, un fatto sta, c'è scritto sulla bolletta che viene considerato anche il consumo dell'altra casa, cioè in via Arcidiacono dove abitavo prima, hai capito? Ecco, appunto devo andare per chiarire questa storia qua. Sì, vabbè, non è questa grande cifra, ad ogni modo la bolletta dell'acqua la sto pagando sulle doppie, capito? Ho capito. Bisogna informarsi a vedere cosa si può fare. Non lo so, non mi è mai capitato, ma sono stata all'utente, però non mi sono mai capitati questi problemi, solo che adesso c'è un casino. Noi 2 anni che non fatturano qua dove sono io, ci è arrivato 55.000 euro di acqua. E poi un altro particolare, adesso è arrivata l'ultima bolletta da poco, quanto tempo sarà? 15 giorni fa, grosso modo. 3 o 4 giorni fa mi è arrivata un'altra bolletta successiva con scadenza al 5 di dicembre? Sì. Al 5 di dicembre, si può immaginare. Cioè, 15 giorni fa è arrivata una bolletta, no? Che è quella che era nel corrente mese che appunto stiamo vivendo. E mi hanno mandato un'altra anticipata da pagare che scade addirittura il 5 dicembre. Siamo mezzo pazzi. Non ti immaginate quando si fa una rateizzazione, uno chiede la rateizzazione perché i soldi non ne ha e quindi deve rateizzarla. Ti mandano una prima bolletta per dire moneta, la moneta adesso che scadeva qui in ottobre, vabbè, e poi ci vogliono ancora 2 mesi, novembre, dicembre, e mi manda la moneta che scade fra 2 mesi. Ma io ho pensato, ma forse Abanoa ha pensato che la gente quando riceve ci saranno quelli che vanno la pagano subito e dunque incassano in precedenza loro, anziché aspettare addirittura la scadenza della moneta, capito? Che stiamo facendo il furbo in quel modo. Ma in questione di furbi è una questione che hanno un limite massimo per poter bollettare e quindi loro bollettano, poi se tu non ce la fai a pagare te la battesi tu, capito? Adesso a te ne è arrivata una da pagare, l'hai già pagata, a quando? Scadetta a quando? Che scadeva quella se che abbiamo pagato usualmente o no? Ah, se ti scadeva per dire l'altra ti scade, anziché scadere il mese successivo, ti scade il 6 di novembre, la paghi il 30 novembre, non succede niente, di quanto la paghi. Sì, sì, d'accordo, questo sì, sì, ma voglio dire due bollette, una vicinissima all'altra che è stata pagata, mi mandi un'altra bolletta che poi tra l'altro scade fra 2 mesi, vabbè tu mi hai spiegato che loro fanno il bollettario e inviano agli utenti e basta, ho capito, sarà per quel motivo lì, fatto sta, o sarà perché siamo a fine anno, che ne so, fatto sta, la bolletta è arrivata molto ma molto in anticipo, a differenza di tutte le altre volte, capito? E tu te la paghi quando la puoi pagare, non è che devi rispettare la scadenza. Oramai non succede niente, con tutti i casini che ci sono, figurati, stanno pensando di metterti la mora, ma la genera tutti, portati in cash. Tu se ti arriva quella successiva entro la settimana, la porti a fine mese, non succede assolutamente niente, non c'è né mora. Non c'è assolutamente niente, capito? Quindi tu rispetti quella linea lì e non hai problemi. Oppure se ti arriva una bolletta grossa che la vuoi pagare a rate, te la rateggi tu. Nel bollettino, nella causale, ci metti il numero della fattura e ci scrivi al conto. Nella seconda ci metti il numero della fattura e ci scrivi al conto. Nel terzo bollettino ci metti il numero di fattura e ci scrivi saldo. È problema risolto. Sì, quando si d'accordo, no, ma non è il caso nemmeno, anche perché non è che siano così esagerate le bollette, però voglio dire, loro, se ho pagato 15 giorni fa l'ultima bolletta in tempo regolare, perché la paghiamo sempre in tempo regolare, e mi mandi subito l'altra che scade il 5 dicembre, ma cosa mi stai facendo capire a Banoa? Che vuoi i soldi subito oppure, vabbè, non so, io ho tempo fino al 5 dicembre per pagarla, non è quello il problema, la potrei pagare anche adesso, d'accordo? Sì, ma a me mi meraviglia il fatto che loro mi abbiano mandato una bolletta 2 mesi prima della scadenza, capito? È tutto in automatico, è tutto in automatico. Il CED, il Centro di Operazione Dati, da Cagliari manda i tabulati per la fatturazione e loro devono fatturare, capito? Che poi scade il 2 dicembre, il 10 dicembre, loro te la mandino adesso, no? Non ti preoccupare. È una cosa che devono fare per forza. No, siccome mi ha chiamato da poco un amico, mi ha detto, mi sono arrivati 800 euro d'acqua, posso chiedere la ratizzazione? Ma sì, guarda, te la firmo io la ratizzazione, non ti preoccupare. Quindi, da quanto la vuoi pagare? Almeno 200 euro una, perfetto, quanto sono? 800, virgola, ok, 800, va bene. 800, alla biglia 4 bollettini, 2, 4, 6, 8, e ci metti. Nella prima, 200 euro e ti rabbavi, ci scrivi il conto, fattura, numero, eccetera, eccetera. E qui, fino a quando non arrivi al saldo, ci metti saldo, fattura, numero. E quelli che te l'ho battezzato. Ma si può fare, e tu farlo a tutti i bimbi, si può fare. Sì, beh certo, quello sì. No, ma ti ricordi quando erano rimasti anni che non spedivano più le bollette? E quando abitavo nell'altra casa eravamo in 4 in una palazzina di 4 appartamenti, no? E dunque mi sembra che hanno trovato roba di 8.000.000, una cosa del genere. E infatti ce l'avevamo divisa in 4 un paio di milioni a testa, capito? Sì che non, quello, ma quello solamente perché allora le bollette non se ne vedevano mai, erano anni che non arrivavano bollette dell'acqua, poi sono arrivati tutta una volta, infatti poi c'è stata anche una protesta generale perché tantissime persone hanno ricevuto una bolletta altissima, però senza considerare che si era anni senza pagare, allora si sa, lì a quel punto la gente protesta, no? Allora in quel caso lì tanta gente ha fatto anche la rateizzazione, questo senz'altro, cioè, ma non è adesso sono bollette normali, normalissime, io non voglio un ristorante, io oppure un impianto di luce che tutti vanno lì alla base, o il consumo di casa, della famiglia, che è normalissimo, dunque non c'è bisogno né di rateizzare, allo stesso momento non è che siamo a quel punto di non poter pagare una bolletta anche se esce per 200 euro, capito? Non è quello il problema. Molta gente ha difficoltà anche a pagare le bollette piccole e quindi se il reddito c'è, non ne fanno le rateizzazioni, quindi te la fai tu. Io te la non mangio, te la voglio pagare, ok, te la pago a 50 euro la botta. E ci mette a conto fattura numero, con riferimento, fino a quando non fai il saldo, l'ultimo conto corrente che paghi metti saldo. E ti riconsidera lì la fattura. Poi se ti arriva un reclamo, io l'ho pagata, me l'ho pagata così, arrangiatevi, a posto, non ti dico nulla. Non ti dico niente perché lui lascia aperto. Andare a recuperare tutti di là. Ui, chissà com'è. Io penso che al prossimo anno ci sia qualcosa, qualche cambiamento, e ci stanno già pressando. Anche la multinazionale sta lavorando male, sta sempre anticipando. La regione non sta mandando niente, soldi, attrezzature, nulla. Sta mettendo tutti nei casini straordinari. E la multinazionale ci paga, però deve recuperare quei soldi da loro, quindi qua lascia perdere giù. È un casino di Gesù Cristo. Spero che se ne tolga a piedi e che mi faccia arrivare alla pensione tranquillo e sereno, ma poco ci spero. La pensione, se continuano ad avanzare l'età pensionabile, non è per adesso qua. Anche perché penso che te ne manchi ancora un bel po' di anni, data l'età che hai. E se continuano ad aumentare a 67 anni e poi magari tra un po' di tempo a 69 come fanno in Germania mi sembra e così via, e quando è che devo andare a pensione? Quando ho 90 anni? Io l'età me la fa prontamente perché io ho 58 anni, anzi 59, dovrei avere 40 anni di contributi, quindi a me di chi ci dite niente, non me la futti manco, va all'anticamera, io ho 40 anni di contributi e me ne vado, capito? Quindi 51 il prossimo mese, 8 anni, e me la posso andare tranquillamente con 40 anni di contributi, quindi ci buoni tutti quanti in picca, non me la futti un dall'età a me. Sì, vabbè, quello sì. È un problema, adesso vediamo un po' che cosa decidono al governo e sentiremo. Certo, la difficoltà maggiore è sempre per i giovani perché già iniziano tardi a lavorare quando ci riescono. E quando arrivano alla pensione a fare 40 anni di versamento, se uno incomincia a 30 anni deve arrivare a 70 anni. Oggi tanta gente nemmeno a 30 anni riesce ad avere il posto di lavoro e allora a questo punto quando avrà la pensione mai? È una difficoltà, cioè. No, beh, io già ho iniziato da ragazzino e quindi ti ripeto, io a 50 anni me ne vado, poi quello che dicono facciano a me poco mi interessa. Anzi, poteva andare anche prima se rimaneva l'ente pubblico, l'ESAF, allora sì. Ma una volta hanno privatizzato, ci hanno addirittura che è cambiato il contratto, quindi ho perso un po' di punti, se no sarei andato via anche. anche prima, me ne frega niente, non mi interessa, che tanto guarda, quando arrivi a 70 anni, nel bucalare, i giardinieri ci rimangono da travagliare, quindi preferisco andare via prima, che non me la futti niente, già campo lo mattesci. Però una vergogna, come hai detto tu, che se la gente inizia a 30 anni a lavorare, vuole avere quanti anni deve lavorare per poter arrivare ai contributi, cazzo, sono tutti pazzi. Eh sì, anche perché al compimento dei contributi si arriva ad un'età che poi non è tanto semplice, soprattutto per i lavori usuranti, e voglio vedere uno che fa ad esempio un muratorio, che lavora in miniera alla città, a 70 anni ancora sottoterra lavora in miniera per raggiungere 40 anni di contributi, no, non è certamente un bel discorso che sta facendo il governo, eh. Adesso vediamo un po' che cosa decidono anche per quello, perché si suppone che per i lavori usuranti facciano delle agevolazioni differenti da quelle che possono essere le normali pensioni, ecco, non lo so, saremo a vedere. È un bel schifo, ma si vedrà giù, si vedrà veramente che cosa c'è da fare, perché a questo punto non è che si possa cantare vitturi, vediamo un po'. Antonello Baracco, arrivatoci. Inizia a funzionare questa cosa, eh? Siamo a buon punto, caro Claudio e caro Giulio. Vale bene. Poi c'è un piccolo programmino, tu inserisci, prima di tutto ti decidi se vuoi fare un'antenna o delta lupo o di polo multibanda, tre braccia. Inserisci la frequenza, premi un pulsante e ti fa tutti i calcoli, pronto per costruirla. Cioè tutte le misure precise, esatte, praticamente chiunque si può costruire un'antenna di questo genere. Interessante. E allora passalo a qualcuno che di misure ne conosce poche, di modo che abbia un po' di praticità e si mette a costruire. Avanti Giulio, che vada bene. Ok. Sì, Maximiliano, sicuramente è una cosa interessante, non ci sono dubbi. Praticamente la delta loop è invertita, indubbiamente, sì. Ma che sezione di filo usavi tu quando hai fatto quel tipo di antenne? Da 1,5, da 1, da 2 mm, cioè perché so benissimo che quando la sezione è differente ci sono anche differenti misure di lunghezza fisica dell'antenna. Ah guarda, usavo un cavo da 2,5, certo più grosso lo usi meglio è, per una questione di larghezza di banda e tenuta di potenza. 2,5 più che sufficiente, ci ho caricato quasi 1000 watt e hanno sempre tenuto. Ok, beh sì, in effetti 2,5 è un cavo abbastanza resistente. Resiste anche 3.000 watt, non ci sono dubbi, facendo il calcolo, poi considerando la potenza che si può utilizzare in un impianto elettrico, appunto un cavo da 2,5 puoi caricare anche 3.000 watt, non ci sarebbero problemi, e penso che sia più o meno la stessa cosa. Insomma, non proprio, perché sull'antenna la tensione generata è veramente elevata, 3.000 no, diciamo che già 1.000 comincia già l'isolante un po' a cucinarsi, però tiene. L'ideale sarebbe usare o un 4 o un 6 mm o addirittura 8, allora sì, che puoi caricarlo, ma per uso così già 2,5 è più che sufficiente, capito? Sto facendo questo e niente, è un piccolo programmino dove decidi se farti o una delta loop o un dipolo multibanda a tre bande. Adesso devo finire un attimino, poi quando è terminato del tutto lo metto sul mio sito, chi lo vuole se lo scarica e ci gioca. sì, sì. Poi naturalmente ci fai una multibanda buona estrapolata, no? No, questa qua è semplice, è un dipolo che ha tre braccia e basta per lato. No, è senza trappole, no, sto facendo proprio una cosa semplice, semplice, semplice. Praticamente tagli, c'hai le tre braccia distanziate tra di loro di una ventina di centimetri, più di 20-30 centimetri, e fai tre lunghezze diverse, per dire fai 40-20-10, che cosa ne so, 40-30-17, cioè quello che uno serve, capito? Solitamente uno fa 40-20-10, diciamo hai preso un po' di bande, e poi te ne puoi fare un'altra, per dire fai 30-17-15 per fare le bande intermedie, con due calate c'hai 6 antenne. Ho capito, sì sì, ho capito. Poi naturalmente devi utilizzare sempre il raccordatore, chiaro, perché sennò non penso che possa andare bene così alla perfezione, visto e considerato che la calata praticamente può essere anche unica, no? No, no, senza accordatore. Se le cose le fai bene, le tari bene, le tre bande, avrai un ROS 1-1, 1-2, cioè, se tu lo metti bene il dipolo, ben lo steso, senza problemi, senza ostacoli attorno, non hai bisogno, metti il simmetrizzatore a 1-1, un ballo 1-1 sul dipolo, non c'è bisogno di mettere accordatore, così anche nelle delta loop. Io nelle delta loop che ho realizzato sempre 1-1 riuscivo a far scendere il ROS. No, se le fai fatte bene sei a posto, non hai bisogno di accordatore. Avanti qua. E dai, io vi saluto. Domani mi devo alzare presto. Io già ho fatto tardi, mi sono cliccato a mezzanotte e mezzo. Stamattina ero un cadavere. E io non ce l'ho a scimettere d'attore, su quella di scimettere, Massimilia. E c'ho 1-1, non uso accordatore. A volte anche meno di 1-1. La scimmetrizzatore è molto importante sui dipoli. C'è la possibilità di lavorare bene senza correttore. Va bene, ciao Massimiliano, ciao Giulio e ciao a tutti quelli che sono in ascolto. Buonanotte a tutti e ci sentiamo domani. Ciao ciao. Ok, ciao, buonanotte. E anch'io sono molto chiuso e vado a nanna. Ho capito, Massimo Giacomo, vai, saluta Claudio. Ehi, ciao, ciao, buonanotte. Ne approfitto anch'io che non devo andare a letto, anche domani mi tocca alzarmi presto. Va bene, dai, buonanotte a tutti. Massimiliano Archimede, QRD. Ciao Giulio, ciao Claudio. Ciao Massimiliano, ciao qua, buonanotte. Guardati anche per me, ciao.